Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Questa settimana siamo in diretta da Emo Milano 2015, la fiera mondiale delle macchine e utensili. Per chi fosse a Emo, qui alla fiera di Milano, a Roffiera, siamo al padiglione 14, ci sono un sacco di robot, un sacco di macchine complicatissime. Poi andrò anche a fare un giro alla fine del sabato del villaggio. Noi vi teniamo compagnia in diretta tutto il pomeriggio fino alle 17, poi dalle 17 alle 18 ci sarà il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete, con degli ospiti questa settimana, ve lo annuncio, molto molto speciali. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Due strumenti facilissimi per contattarci: l'SMS 349 238 6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio, ormai lo dico da un anno, è un po' lungo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Torna nel nostro sabato del villaggio il gastronauta, questa volta con Davide Paolini. Parliamo di Perù e andiamo anche a fare un viaggio tra Mantova e Cremona. Nella prima ora anche le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parleremo di stampa 3D e poi tanto tanto cinema, tutte le novità del weekend, ma non solo, perché iniziamo proprio parlando dei grandi fenomeni della stagione in Italia. Ba ba ba ba ba na na, ba ba ba ba ba na na, na na. Beh ragazzi, li avete riconosciuti tutti, sono i Minion. È la stagione più che mai quest'anno, secondo me, dei grandi film d'animazione. I numeri degli incassi sono pazzeschi. Io ho preso un po' di dati, li ho presi oggi in rete. Minions 22,9 milioni di euro, Inside Out 19 milioni 695 mila euro. Inside Out ha superato le 50 sfumature di grigio e adesso comincerà a cercare di insidiare appunto il primato di questi Minion. Ma cosa è successo quest'anno? Perché questi grandi film d'animazione e questo grande successo non solo tra i piccoli, anzi forse soprattutto tra i grandi, non lo so. Io ho chiamato un amico che è anche un super esperto, che al sabato del villaggio conoscete, perché quando si parla di questi temi io chiamo sempre lui, perché mi fido di lui, mi fido di quello che dice, di quello che sa. Espertissimo di cinema e anche di nuove tecnologie, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora Gabriele, è un anno davvero con dei titoli davvero forti, tu come te lo spieghi questo fenomeno? Allora ti darò veramente l'unica risposta che non volevi sentire. Ah, guarda, ho paura, ho paura. È un caso davvero, perché no, dici che si sono incrociati per strada per caso queste grandi produzioni? Allora un po' sì, chiaramente solo un po', nel senso, noi lo sappiamo che sono diversi anni, parecchi, quasi 20 anni che l'animazione è cambiata, è diventata qualcosa di diverso da quando esiste la Pixar. Abbiamo notato tutti che dal 1992-93, quando è nato Toy Story, il primo film della Pixar, sono nati tanti studi di animazione. Prima i film li faceva solo la Disney e poi c'era qualcuno di indipendente che faceva qualcosina ogni tanto, ma insomma poco. Adesso ogni anno escono 4, 5, anche 6 film d'animazione da altri studi, c'è la Pixar, c'è la Disney, che poi sono la stessa cosa, c'è la DreamWorks, c'è la Illumination, che sono quelli dei Minions, insomma, c'è la Blue Sky, che sono quelli dell'era glaciale, che è un'altra corazzata inarrestabile. Sì, perché noi pensiamo così a volte superficialmente, quando c'è un film d'animazione uno dice, vabbè, Disney, invece no, ormai gli studios sono tanti e sono importanti. Esatto, sono tanti, per quindi l'offerta cambia e anche, diciamo, si differenzia e aumenta, e anche piano piano nella nostra consapevolezza si è fatta strada quella cosa che noi, che siamo un pochino più addetti ai lavori, diciamo da tanto tempo, ma poi gli spettatori in realtà spesso non ci credono, fanno bene a non credere a noi addetti ai lavori, però ogni tanto abbiamo, cioè c'è anche un po' di ragione, cioè che davvero quell'animazione è per tutti, sta cambiando. Io finalmente, dopo 20 anni, sono riuscito a mandare i miei genitori al cinema a vedere un film d'animazione da soli. Loro non ci andavano da quando non portavano me. Li ho convinti a vedere Inside Out e si sono messi a piangere entrambi. Allora, ascoltiamoci un frammento di Inside Out, perché ho delle cose molto particolari da chiederti su questo film. Aspetta, Gioia, potresti perderti. Pensa positivo. D'accordo, sono positivamente certa che ti perderai. Quella è la memoria a lungo termine, un labirinto di corridoi e scaffali. L'ho letto nei manuali. I manuali? I manuali? Tu hai letto i manuali? Sì. Quindi sai come tornare al quartier generale. Andiamo, guidaci mia mappa. Dove dobbiamo andare? Va bene. Oh. Da che parte? Sinistra? Destra. No, volevo dire sinistra. Ho detto destra, ma intendevo sinistra. Gabriele, Inside Out è un film molto molto particolare, perché io ho l'impressione che sia un film che ancora più dei precedenti possa essere letto su letture, piani di lettura molto differenti. Allora, la storia dei Minion la sappiamo, sono degli omini molto buffi che in realtà poi hanno la passione di essere i servi, gli schiavetti, gli aiutanti di capi molto cattivi. Invece Inside Out è una storia completamente diversa, c'è questa bambina adolescente, Riley. La sua storia viene vista sia nella storia quotidiana di Riley, sia attraverso quello che succede nel suo cervello con le emozioni che interagiscono tra di loro in forme più o meno antropomorfe. Io ho l'impressione, Gabriele, che i bambini l'abbiano amato, ma questo l'abbiano amato in particolare gli adulti. Il fatto che i tuoi genitori abbiano pianto mi conforta ancora di più su questa tesi. Guarda, l'hai già anticipato tu, sono due successi completamente diversi. Quello dei Minions è un grandissimo successo di marketing, cioè hanno trovato, molti sanno già che i Minions erano parte di altri film, vengono dai film di Cattivissimo Me, che è una serie di film in cui loro sono un personaggio marginale, ma che si è conquistato un film a sé per il successo che ha avuto. Gli oggetti dei Minions si vendono benissimo, si vende tutto bene, e quando hanno fatto il film a loro dedicato, pompatissimo e tutto quanto, è andato molto bene, ai bambini piace tantissimo. Io lo trovo terribile, ma ai bambini piace tantissimo. Lo sai, invece a me piacciono tanto, e poi io ho la scrivania piena di pupazzetti, e questo è bello, io come i bambini sì, io dei Minion ho tutto, ho addirittura la suoneria del cellulare, quella per i messaggi, e i Minion che dicono text message, e però poi non controllo subito il messaggio se sono in pubblico, perché mi vergogno, perché tutti guardano per capire di chi è il telefonino, allora io non controllo, perché sennò si capisce che è il mio. Vabbè, comunque, io quindi vittima dei Minion. Inside Out è invece diverso come tipo di successo. È un successo di penetrazione, cioè è un successo che, appunto, come tutti i film d'animazione, i bambini vanno al cinema accompagnati dai genitori, ma in più agli altri, gente di altre età va al cinema. Io l'ho visto in un'anteprima stampa, ma ci sono dovuto tornare con la mia ragazza, perché dovevo andare con lei, e sono finito in queste proiezioni piene di bambini, ma lo stesso è capitato ai miei genitori, sta capitando un po' a tutti in tutta Italia, ed è una delle prime volte, nonostante ormai siamo 20 anni che la Pixar fa cartoni anche per adulti, in cui il risultato è così clamoroso ed è così aperto a così tanto anche a una lettura molto molto adulta, perché per chi non l'ha vista vi spieghiamo perché è così adulto, perché sennò sembra che ha luci rosse, perché ci sono tante cose nel film che hanno a che vedere con la memoria e col ricordo, e si possono comprendere solo se si ha una vita dietro di sé, si è vissuto un numero di anni sufficiente ad avere veramente dei ricordi, un certo numero di ricordi, insomma una certa quantità, e avere una malinconia, una nostalgia legata ad essi. E questo fa sì che, appunto, tutti gli spettacoli si riempiano di pubblici completamente diversi, cosa che non accade né per il film dal vero, perché raramente si portano i bambini a vedere i film dal vero, è proprio difficile, né per i film animati, perché raramente gli adulti ci vanno da soli, senza accompagnare nessuno. E questo, chiaramente, se lo si porta ai massimi livelli, con un passaparola positivo, la macchina di marketing della Disney, chiaramente è uno schiacciasassi, beh sì, si possono fare incassi clamorosi. Lo twittavo ieri e ci scherzavamo ieri su Twitter, Gabriele. Intanto ricordo che il tuo account di Twitter è @giniola, per chi volesse soprattutto leggere le tue recensioni, con le quali sono, sai, sempre d'accordo. Twittavamo e scherzavamo sul fatto che Disney ha annunciato un sacco di film nuovi, da qua al 2020 saranno 19 i nuovi film Disney, tra gli altri c'è Incredibles 2, Cars 3, poi Toy Story 4 che uscirà nel 2018. Cosa pensi di queste saghe interminabili tu? Io non, la vulgata vuole che le saghe interminabili, che è, diciamo, quello che impera nel cinema americano negli ultimi 15 anni più o meno, siano sintomo della mancanza di fantasia. In realtà io non penso assolutamente questo, perché non credo che la fantasia e la creatività stiano nel titolo o nel carattere dei personaggi, che poi è l'unica cosa che si ripete effettivamente nei sequel. Io credo che poi la fantasia stia nel film in sé. Un Toy Story 27 può essere bellissimo se lo scrive una persona che lo sa scrivere, si inventa una bella storia, non è un problema. Io credo che il motivo per cui di tutto questo sia che è cambiato la maniera in cui i film vengono promossi. Il cinema è un'arte commerciale, forse tra le più commerciali in assoluto, e quando i film sono molto grandi devono rientrare di tanto denaro e devono essere un successo, e da quando esiste internet, esiste l'informazione online, i film si cominciano a promuovere da un anno prima, perché si comincia a dire che lo si farà, come ha fatto la Disney, no? Che dice faremo questi film tra tanti anni, poi si comincia a dire avrà questo personaggio e si vede la prima foto, poi si dice avrà questa prima scena, insomma si crea un'aspettativa a lungo tanto tempo e non puoi creare un'aspettativa su qualcosa che nessuno conosce, perché io non ho aspettativa su qualcosa che non so neanche cos'è, deve essere un nome che conosco, o un vecchio film che viene rifatto, o una vecchia serie TV che ritorna, o non so che dirti, solo autori immensi, ma sono pochissimi, tipo Christopher Nolan, crea un'aspettativa sul proprio film solo perché è mio, e quindi si crea. Tutti i film oggi sono promossi in questa maniera, per questo è molto più facile, semplice e redditizio fare dei sequel. Come dicevi, anche poi il marketing, è ovvio che se esce un altro film dei Minion io sono già propensa a comprarmi tutto il marketing dei Minion e non di un nuovo personaggio, perché prima che io mi innamori ad esempio di quella di cui sono innamorati tutti nel caso di Inside Out, della piccola Tristezza, prima di imporre il merchandising relativo a un personaggio nuovo ci vuole del tempo, invece anche esatto. Lì insomma questo fantastico, fantastico. Studi come la Pixar si sono conquistati, quindi un motivo di merito, una personalità tale che si possono permettere anche, loro fanno sia sequel che no, anche di non fare dei sequel, perché comunque c'è interesse su cosa ha fatto di nuovo la Pixar, mi interessa a prescindere. Tra l'altro un ascoltatore o ascoltatrice al 349-238-6666 scrive: Inside Out è stato stroncato senza appello da Nicoletti, io mi fido di lui, io a questo punto desidererei tanto una sfida a duello tra te e Gianluca Nicoletti, la proporrò a Gianluca su Inside Out, mi piacerebbe molto vedervi a singola tensione. Gabriele, intanto abbiamo avuto un'anticipazione in questi giorni, il produttore Clark Spencer ha presentato in anteprima il nuovo film di animazione, il fantastico mondo animato di Zootropolis, che uscirà nelle sale italiane il 25 febbraio. È stato creato un altro mondo, un nuovo mondo particolare. La nostra Federica Frola è andata a incontrare Clark Spencer, che le ha raccontato così sarà questo nuovo mondo di Zoolandia. Yeah, the film is a very modern film. It's a modern city. We take advantage of technology throughout the film. Abbiamo creato un mondo, una città, Zootropolis, abitato unicamente da animali antropomorfi che utilizzano le tecnologie moderne. È un film moderno. Abbiamo usato le tecnologie per realizzarlo, ma mostriamo anche smartphone, computer, iPhone e altri strumenti tecnologici nel cartone, così tutti, soprattutto i giovani, si potranno immedesimare in un mondo che conoscono. Abbiamo voluto rendere la città viva. Abbiamo studiato da vicino le abitudini e i movimenti di 50 specie animali e al microscopio la loro pelliccia per riprodurli realisticamente. Così il pelo di un orso polare non è normalmente giallo, ma è il riflesso della luce che lo rende tale. Abbiamo studiato anche il vento, come fa muovere gli alberi e il pelo dei nostri personaggi. Insomma, abbiamo studiato ogni minimo particolare per rendere ogni scena più realistica. So there were so many things we really studied deeply to make sure we were going to bring these characters to life in a very realistic way. quindi tornano gli animali antropomorfi come in Robin Hood, e anche qui c'è una c'è la coniglietta Judy Hopps e poi c'è la volpe Nick Wilde, ci assomigliano un pochino, e poi Chicken Little, che sembra di poco tempo fa ma addirittura del 2005, 10 anni fa. Quindi tornano gli animali antropomorfi, questo nuovo Disney, 55esimo classico Disney, Zootropolis, arriverà in Italia il 25 febbraio 2016, quindi prepariamoci già, questa sarà la nostra prossima la nostra prossima sessione. Gabriele, ti chiedo solo, qual è di tutti questi film invece che tu hai amato di più? Se qualcuno non avesse visto questi film di animazione, quale consiglieresti tu di vedere? Ma sicuramente Inside Out, per tutti i motivi che abbiamo detto. Immagino che, siccome il passaparola sta andando molto bene, immagino che tutti quanti abbiano qualcuno che gli ha detto: mi raccomando, vai a vedere Inside Out. Io, la motivazione che do io è che io l'ho visto al Festival di Cannes e non mi era mai capitato, nella sala grande, con tutta la stampa, tutta la critica che stava al Festival di Cannes, di vedere gli applausi in mezzo al film. Cioè, solitamente lì c'è un certo contegno, una certa aura sacrale di questa cosa, e invece in Inside Out c'è stata un'ovazione già in mezzo al film, poi alla fine ovviamente ed è stato il film più apprezzato di tutto Cannes. Quindi se un film riesce a mettere d'accordo tutti i critici di Cannes, più tutti i bambini, più gran parte degli adulti, degli spettatori comuni, beh, forse è da vedere. Sono d'accordo con te. Grazie Gabriele Niola per essere stato con noi. Per continuare a seguire Gabriele Niola, il suo account di Twitter è @giniola. Alla prossima, grazie Gabriele. Ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo perché ci sono tutte le indicazioni per il traffico e poi saremo ancora insieme con il sabato del villaggio. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta il sabato del villaggio. Eccoci ancora insieme con il nostro sabato del villaggio in diretta da Emo Milano 2015 al padiglione 14 Emo, che è la fiera mondiale delle macchine e utensili. Sì, noi siamo alla fiera di Milano, a Rho, però io in questo momento vi porterei in Perù. La grandissima Ima Sumac, una delle più grandi cantanti peruviane. Non volevo la solita musica così che ci aspettiamo dal Perù. Questa era una grande, grandissima cantante, perché il nostro Davide Paolini ci ha detto, stavo annunciando ancora Gabriele Niola, no? Il nostro Davide Paolini mi ha detto che ci vuole portare in Perù. Davide, è vero che ci vuoi portare in Perù? Il nostro gastronauta, sì. Cioè, ma vi porto in Perù tra pesce, peperoncino, patate. Allora, devi sapere che io, quando mi ha detto il nostro Cristian Goldoni in redazione che ci volevi parlare di cucina peruviana, sono rimasta a bocca aperta, non ne so nulla, quindi io davvero spalanco gli occhi, fammi sognare. Ma guarda, parlerò in particolare di un piatto, perché questo piatto sta veramente imperversando in questo momento in Italia, ed è la ceviche. Ceviche o ceviche, anche se si chiama, ed è un piatto dichiarato patrimonio culturale della nazione in Perù, quindi è di straordinaria importanza, anche perché rappresenta un qualcosa di molto particolare che appunto oggi ha cominciato a far conoscere questa cucina che fino a un tempo fa era completamente sconosciuta non solo in Italia ma in Europa. Cos'è questo piatto? È un piatto molto semplice tutto sommato, ma è anche un piatto in cui c'è un pizzico che arriva dal Giappone, probabilmente così dicono, ma è praticamente un pesce bianco di solito, che viene praticamente messo con sotto succo di limone, cipolla rossa, un peperoncino molto particolare, molto forte, e quindi lasciato per un po' di tempo, e ciò che emerge è veramente un sapore particolare che oggi sta conquistando il palato, e soprattutto in quel di Milano sta veramente imperversando, perché ci sono alcuni locali che durante l'Expo, ad esempio il Timè ma anche Daniel, avevano così ospitato tutta una serie di grandi cuochi peruviani, ed è diventato molto diffuso. Ma non solo questo piatto, perché questo piatto che rappresenta appunto una cultura, la cultura peruviana è una cultura di prodotto, è una cultura della biodiversità. Pensa che ci sono migliaia di varietà di patate, quindi migliaia di varietà di peperoncino, quindi è una cosa incredibile dal punto di vista dell'attrazione per chi si occupa di cucina. Ma vicino a questo piatto c'è anche una bevanda che sta diventando molto nota tra i cocktail, però si chiama Pisco, Pisco Sour. Pisco Sour, ah, l'ho sentito nominare. Ecco, sicuramente, guarda, ultimamente diciamo che si sta diffondendo, come si dice, a macchia d'olio. Il pisco è un distillato molto particolare che è noto e diffuso in tutto il Sud America, non solo in Perù, ma anche in Cile. Ecco, faccio un inciso indietro. La cevice è ormai al timbro peruviano, però si trova anche molto diffusa in Cile. Quindi questi due paesi hanno molte cose in comune sulla cucina. E il pisco è un distillato che nell'uno e nell'altro paese si ottiene con uve completamente diverse, però sicuramente in fondo è un distillato che sa di vino. Ma è diventato anche un cocktail che si chiama Pisco Sour. Perché? Perché è composto da un succo di limone, bianco d'uovo, ecco, addirittura c'è un bianco d'uovo dentro e amargo bitter anche, e poi viene servito con in tubetti, cioè ghiaccio in tubetti. E di solito Davide, ma strong o è abbastanza strong, direi. Abbastanza strong, perché quando dici distillato io mi spavento, Sì, diciamo che è tra i 40 e i 50 gradi, quindi secondo le varie modalità di produzione. Ecco, diciamo che questo aperitivo fatto da Pisco Sour e cevice sta veramente ottenendo un grande successo e sviluppando sicuramente questo concetto che arriva dal Perù. Come ti dicevo, però, la cucina peruviana in questo momento sta avendo un grande successo perché ha un gruppo di chef ormai a livello internazionale, tra cui alcuni sono nei primi 10 della famosa graduatoria dei 50, quindi c'è Gaston Acurio, c'è Virgilio Martinez, poi c'è Mitsusaru Tamura, poi potrei continuare, Miguel Scaffino, insomma sono un gruppo molto molto importante. Di questo Gaston Acurio si dice anche che se volesse presentarsi per l'elezione di Presidente della Repubblica in Perù, forse potrebbe anche vincere perché ha un seguito incredibile. La cucina è diventato un fatto sociale in Perù. Ecco, questo è un distinguo molto importante, forse fatto unico nel mondo. Ma ci hai aperto un mondo, io non conoscevo questa cosa e non vedo l'ora di andare a mangiare questo piatto e anche di bere se qualcuno guida per me, perché io poi non garantisco. Davide, passiamo al nostro itinerario? Sì, oggi andiamo... Allora aspetta che ti voglio portare, prego. Ho scelto una canzone per te e poi poi voglio anche segnalare una cosa bellissima che tu hai scritto qualche tempo fa, eccola qua. Di statura nuvolari e al di sotto del normale, nuvolari a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Allora, questa pagina tu l'hai scritta nell'aprile 2013, molto molto bella. Hai raccontato di tuoi viaggi in giro per l'Italia con tuo zio Goffredo, hai raccontato di una sosta a Monzambano, che è in provincia di Mantova, e hai mangiato per la prima volta il riso alla pilota, che mi dicono essere dedicato proprio a Tazio Nuvolari. Hai detto che è ormai il piatto portafortuna perché tu hai giocato all'otto e hai vinto. E questa pagina secondo me è bellissima, adesso la twitto perché è troppo bella. Perché andiamo da quelle parti lì, Davide. Sì, andiamo da quelle parti lì, è verissimo. Quel giorno che sono andato in quel posto ho giocato all'otto per la prima volta in vita mia ed ho vinto a Monzambano e sono dovuto tornare a Monzambano a ritirare i soldi. Bene, chiusa questa parentesi, devo dire che io vi porto in zona perché in provincia di Mantova, tra Mantova e Cremona, ci sono secondo me il meglio delle trattorie italiane, veramente è un'area di trattorie. Allora potrei parlare del caffè La Crepa, che è ad esempio a Isola Dovarese, dove c'è una piazza bellissima. Questa è una storica trattoria che è nata come gelateria, si è sviluppata nel tempo e qui appunto come ovunque si mangiano tortelli di zucca o di erba, si mangia il cotechino, si mangia la faraona alla creta e ti potrei anche da Caffè La Preta. Io a Isola Dovarese invito tutti, andate, vedete questa piazza bellissima e si capisce l'Italia quale patrimonio ha e che se ne sta andando rotoli. Ecco, questo secondo me è un fatto molto importante, è un viaggio che vale la pena. E poi anche a Cicognolo, all'osteria dell'Umbrelaire, una bella storia, perché qui diciamo l'antenato dell'attuale patron aggiustava ombrelli e a Cicognolo c'è questa trattoria dove si possono mangiare i marubini in brodo e i tortelli di provolone, veramente molto molto interessanti. Tra l'altro si mangia anche una mostarda fantastica, perché Luccini, la famiglia Luccini, che sono i proprietari, producono anche ottima mostarda. E poi ancora Piadena, sai benissimo. Il duo di Piadena. Esattamente. Non so che fine ha fatto il duo di Piadena, ma insomma il duo di Piadena qui si chiama Trattoria dell'Alba, dove anche qui il mangiare è molto tradizionale, perché si mangiano salumi stagionati, come dicevo, ancora in brodo i marubini, magari si può versare anche dentro un cucchiaio di lambrusco, poi ancora si possono mangiare dei bolliti misti, oppure l'oca in terragna o l'anguilla al forno. Poi come ultima diciamo meta, però ti porto in un locale che qui io ho parlato di trattorie, però c'è stato, come posso dire, un promotore, un pioniere che ha fatto diventare famosa tutta questa zona. Era una trattoria originariamente, era una trattoria vicino all'Oglio, vicino al fiume Oglio, perché qui siamo tra l'Oglio e il Chiese, e si chiama Ristorante dal Pescatore, chi non lo conosce, della famiglia Santini. È un ristorante 3 stelle, però era una trattoria. Quindi credo che questo percorso sia stato fantastico, però vuol dire anche che la cucina italiana nasce dalle trattorie, poi si può sviluppare, come in questo caso, sulla bravura di Antonio Santini e della moglie in cucina. Addirittura c'è tutta la famiglia coinvolta, c'è ancora la mamma di Santini in cucina. Qui è diventata famosa proprio per questi piatti tipici di quell'area, che li hanno saputi presentare al meglio in un locale veramente molto molto elegante. Una volta entrati dentro uno si può chiedere: ma come? Questa un tempo era una trattoria? Ebbene sì, però dentro si trova un tovagliato perfetto, un servizio perfetto. Appena cade un tovagliolo si vedono tutti i camerieri muoversi. Io sfido sempre Santini e dico che ogni volta che vado a mangiare lì, non è che ci vada tutte le settimane, ogni volta che vado la mia sfida è trovare l'errore. Ebbene, ho un difetto, ancora non ci sono riuscito. E chi andasse in questo locale si faccia vedere la cantina, perché anche la cantina è veramente un gioiellino, raccolte di vino veramente con annate ormai introvabili, anche di un vino libanese che è difficile da trovare, quindi si può trovare anche questo vino libanese. In questa area non ci sono solamente trattorie, ci sono anche tanti bravi produttori locali di salumi, di formaggi. E poi chi volesse, qui si trova anche abbastanza il pesce d'acqua dolce, che diciamo in quest'area qui, appunto, avendo l'Oglio e il Chiese, anche, che sono due affluenti del Po, lo ricordo, quindi può trovare benissimo anche dell'ottimo pesce di acqua dolce. il viaggio si è concluso. Mario, che meraviglia. Poi è anche la stagione giusta, le prime nebbie. Che cosa favolosa. Grazie Davide, alla prossima settimana ti aspettiamo ancora con affetto. Mi hai stimolato sulla nebbia, la prossima volta parlerò di nebbia. Ah, la mia passione. Grazie. Bene, Davide, alla prossima settimana. Ciao. Noi ci risentiamo tra poco perché abbiamo una breve pausa e poi parleremo di tecnologia al Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci con il Sabato del Villaggio, sempre in diretta da Emo Milano 2015, padiglione 14, la fiera mondiale delle macchine utensili. Beh, anche noi abbiamo parlato un po' di innovazione parlando di animazione, e si è scatenato un dibattito al 349-238-6666. C'è chi dà ragione al nostro Gabriele Niola, dice Chica da Novara, ha sentito la stroccatura di Gianluca Nicoletti su Inside Out, ma lei, che è una psichiatra tra il pronto soccorso, dà ragione a Gabriele oggi, dice che è un film centrato e soprattutto poetico, la miglior forma di terapia. Qualcun altro invece dice che Inside Out è una grande idea ma anche un'occasione persa, troppo didattico. Si scatena il dibattito pro contro questo film, ma noi adesso dobbiamo parlare di altro tipo di innovazione, dobbiamo parlare di tecnologie. Abbiamo in collegamento il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno a tutti, ciao. Io adoro sempre i collegamenti con Enrico Pagliarini perché io non so dove sia, è collegato da luoghi misteriosi, ma mi sembra sempre di averlo vicino in studio, chissà. Sì, chissà, vicinissimo, vicinissimo, ma a volte non lo so nemmeno io, mi paracadutano in un luogo e poi esatto, da lì mi collego. Basta avere una connessione e esatto. Ti colleghi. Allora, siccome tu mi hai detto che vuoi parlare di stampa 3D, ti ricordi Enrico che avevamo sentito suonare delle stampanti ad aghi? Sì, abbiamo sentito la musica suonata proprio dalle stampanti. Sì, sì. Ma secondo te possono suonare anche le stampanti 3D? Sì, con vari tipi di suoni, non lo so, poi già la fantasia dei musicisti che catturano suoni dal mondo è infinita, sterminata, non so, cosa mi fate sentire? Allora, ti faccio sentire come suona una stampante 3D. Eccola qua. Mm. Suona benissimo, eh? Fantastico. Questa è Guerra Stellare. La marcia imperiale di Star Wars, esatto. È fantastico, bene. Allora, c'è un sito che ha tutte queste musiche, suonati davvero dalle stampanti, e la cosa divertente, io non la tradurrò perché lo capirete da soli, il nome è Nerdgasm. non lo traduco, però sì, viene dai molto nerd, carino. Da questi viene dai pazzi nerd, della tecnologia, esatto. E non andiamo avanti. Enrico, tu sei a Demo, io non so se hai fatto una passeggiata, io consiglio di portare addirittura i bambini, perché è vero che quella è una fiera professionale, è anche vero che forse è difficile far entrare i bambini in questa fiera, però è molto divertente perché si vedono macchine anche gigantesche che servono nelle fabbriche per produrre tutto quello che noi utilizziamo tutti i giorni, quindi ci sono dalle più classiche, che ne so, i torni, le presse, le macchine per tagliare il metallo, fino a macchine più nuove come i robot, ma anche tutta quella famiglia di macchine che vanno sotto il nome di manifattura additiva, e noi la traduciamo come stampa 3D. In realtà nel mondo dell'industria questa è una tecnologia, o meglio una serie di tecnologie che vengono utilizzate da moltissimi anni. Dico che bisognerebbe portare i bambini perché alcuni potrebbero anche prendere spunto per una professione futura, visto che questo è un settore molto importante. Allora, la tecnologia però ci viene in aiuto perché negli ultimi anni questo tipo di tecnologia, questo tipo di stampa, di manifattura additiva, è entrata anche nel mondo, chiamiamolo consumer, poi in realtà bisogna essere un po' appassionati, però anche i prezzi si sono abbassati moltissimo. Stiamo parlando di tecnologie simili a quelle che vengono utilizzate nelle aziende, ma di fatto molto diverse, però il concetto fondamentale è lo stesso. Manifattura additiva, che cosa vuol dire? Che invece, allora, il tornio serve per togliere cose, come lo scultore quando fa una statua toglie marmo dal sasso. La stampa 3D invece aggiunge, quindi da qui si dice manifattura additiva, additive manufacturing. La stampa 3D sostanzialmente che cosa fa? Cito la più nota, perché dicevo ci sono tantissime tecnologie, tanti tipi di tecnologia, però la più nota e popolare, quella che noi comunemente chiamiamo stampa 3D, quando anche magari parliamo tra gli amici, ho detto ho visto una stampante 3D. Allora, è quella ad estrusione. Allora, immaginate un beccuccio nel quale entra un filamento di materiale plastico che viene riscaldato e che poi si deposita su un piano, si solidifica e strato dopo strato, un po' come se noi facessimo tanti strati di Nutella o di altro materiale, insomma, mettendoli uno sopra l'altro, che ne so, uno mette il burro, allora volendo uno potrebbe fare anche una statua di burro, poi si scioglie. Ecco, questa tecnologia permette di creare degli oggetti. Negli ultimi anni questa tecnologia è diventata un po' più flessibile, malleabile, tant'è che ci sono stampanti che sono rudimentali, ma fanno cose molto molto belline, si sono abbassate di prezzo fino a 1000 euro, 700 euro, 500 euro. Ripeto, stiamo parlando di cose entry level che fanno cose molto prodotti dalle forme anche un po' rudimentali, magari bisogna un po' usare la carta vetrata per pulirli, per migliorarli un pochettino, però è un buon modo per far entrare in un mondo industriale, tra virgolette, magari dei ragazzini, dei bambini, insomma potrebbe essere anche un buon regalo. Però, dico, magari non comprate subito la stampa 3D, anche se è diventata molto, molto popolare, la stampante 3D, anche se è diventata molto popolare, insomma, comunque con prezzi molto bassi. Potrebbe essere una buona idea entrare a piedi, in punta di piedi, in un Fab Lab. Allora, belli, ne ho sentito parlare, non sì. Ci sono mai stata perché ho paura di essere un po' fuori età, ma mi piacerebbe mischiarmi ai ragazzi che vanno sì. A fare queste cose. Allora, li cito perché penso che da una recente analisi che è stata fatta, ce ne sono un centinaio, anche qui di tipologie diversissime, ce ne sono alcuni che sono di emanazione industriale o comunque di associazioni che si occupano di artigianato e che hanno creato questi laboratori dove ci sono stampanti 3D che uno può utilizzare magari pagando una quota ad ora. Io vado lì con il mio computer dove mi sono progettato una tazza per il caffè e io vado e me la stampo e pago una quota abbastanza contenuta per utilizzare questo tipo di stampante. E sono anche luoghi di educazione, quindi si può imparare e si può capire come utilizzare questi prodotti. Io ho detto che ce ne sono 100 perché è stata fatta questa analisi, questo censimento, e in primavera si diceva che erano un centinaio, però molto probabilmente alcune sfuggono alcune sono anche nate tra appassionati e quindi sfuggono dal censimento, e immagino che negli ultimi mesi se ne siano create delle altre. Do un'indicazione tanto per dire che questo è un fenomeno che certo non è popolare come lo smartphone, ecco, però si sta cominciando a diffondere in modo anche nascosto, sotto traccia, e non ce ne accorgiamo. Allora, pensate che ci sono alcuni negozi, cito forse il più noto, si chiama Makerland, che è nato da pochi mesi, direi quest'estate, allo Shan di Monza, dove si possono o comprare prodotti di questo genere. La stampa 3D è uno dei tanti prodotti di questo fenomeno che frequenta i Fab Lab, che si chiama Makers, questi appassionati di tecnologia che creano oggetti delle tipologie più varie. Ma si possono comprare anche i materiali di consumo, perché così come nella stampante che stampa i fogli, noi dobbiamo utilizzare comprare le cartucce di inchiostro, e in questo caso dobbiamo comprare questo filamento. Io ho citato il filamento plastico perché è il più popolare, poi qui potremmo aprire un capitolo con materiali che vengono utilizzati per la stampa 3D, ce ne sono molti e ne stanno nascendo. Chiudo ricordando e dicendo che ci sono anche dei negozi in Italia, in Europa, in tutto il mondo, ma essendo negozi che lavorano online, insomma poco conta dove si trovano. E che cosa fanno? Accettano prodotti disegnati da alcuni artisti che mandano il proprio prodotto, lo stampano in 3D e lo vendono. E quindi uno, andando su questi negozi, che ne so, può comprare una cover per il proprio smartphone invece di una cover standard che magari anche il nostro amico ha. È una cover personalizzata. Si possono, se uno è bravo, può addirittura mandare il proprio disegno, il proprio progetto, farselo stampare, se uno non ha appunto la stampante 3D, e gli viene spedito. Però senza arrivare a questo livello, uno potrebbe appunto andare a vedere, sono proprio dei negozi online di prodotti stampati in 3D da artisti, ma ci sono prodotti di tutti i tipi, migliaia di prodotti, ci sono gioielli fatti con... C'è la mia amica Federica che in questo momento su Twitter sì. suggerisce avere in casa una stampante 3D per le scarpe, perché così mi sembra un po' esagerato, è un po' prematuro, non si può ancora. Pensa che bello stamparsi un paio di scarpe nuove ogni volta che serve. Sì. Diciamo che oggi la cosa più facile da stampare è qualsiasi cosa che si può fare di plastica, con un polimero fatto in questo tipo di materiale. Sì, le scarpe, sì, oddio, ci sono le ciabatte che ci sono fatte in polimero, fatte in questo tipo di materiale. Però è un mondo molto interessante. La prossima settimana a Roma ci sarà la Maker Faire, che è una fiera che dove vanno questi appassionati di tecnologia. Non ci sono solo le stampanti 3D, oggi ci sono le stampanti 3D perché sono un argomento anche abbastanza popolare, ed essendo tu ed essendo stati noi di Radio 24 tutta questa settimana a demo, sicuramente la stampa 3D, l'addictive manufacturing, è una tecnologia che a livello industriale si sta evolvendo molto, quindi lì a demo si è parlato di questo. Ma è una tecnologia che negli ultimi tempi è uscita dalle fabbriche ed è entrata anche nelle case. C'è un punto di mezzo tra le fabbriche e le case, che sono i piccoli professionisti. Questa tecnologia fino a qualche tempo fa costava un sacco di soldi, oggi si è abbassata di prezzo. Naturalmente quando parliamo di piccoli professionisti parliamo di macchine che non costano 1.000-2.000 euro, anche macchine che costano magari 10.000-20.000 euro, però macchine che possono, pensa che c'è un'azienda italiana che sta per lanciare sul mercato una macchina che fa i denti con un materiale particolare, per poi vendere queste macchine agli odontotecnici, che quindi diventano molto più flessibili. Interessantissimo. Però adesso devo chiederti qualcosa sull'app della settimana. Non lo faccio subito perché sono le 15:46, siamo in ritardo di un minuto. Diamo la linea alla viabilità, poi torniamo insieme. Il sabato del villaggio. Stampante 3D che suona, ma quanto sono divertenti. Adesso twitto anche il link delle stampanti 3D che suonano. Enrico, l'app della settimana qual è? Allora, l'app della settimana è un'app per curiosi di aeroplani. Bene, cito due in realtà. Una riproduce i tabelloni degli aeroporti di praticamente tutto il mondo, quindi o possiamo essere curiosi, maniaci, oppure magari stiamo arrivando all'aeroporto, oppure siamo in un luogo dell'aeroporto dove non abbiamo accesso al tabellone. Questa applicazione che si chiama Flight Board riproduce il tabellone dell'aeroporto. Mi sembra interessante, curiosa, particolare. Un'altra per pura curiosità si chiama Flight Radar e ti permette di vedere tutti gli aeroplani che girano per il cielo vicino a qualsiasi area del mondo. Quindi magari noi vediamo un aeroplano sul cielo, con questa applicazione che ci geolocalizza sappiamo che quello è un volo che sta magari andando tra New York e Tokyo. Non in Italia, perché tra New York e Tokyo fanno penso un'altra strada, però diciamo, giusto per fare un esempio, questo può essere una curiosità. Diciamo che Flight Radar è un gioco simpatico, anzi la stanno già guardando Valeria e in regia e Christian, perché Valeria ce l'ha installata sul suo smartphone. Invece questa Flight Board, io già mi immagino di guardare il tabellone quando sto andando a prendere qualcuno all'aeroporto e sono in ritardo, per controllare se il volo è atterrato oppure no, potrebbe servire a quello. Sì, sì, esattamente. Adesso io, per dire, mi sono messo il tabellone dell'aeroporto di Milano, posso vedere tutti i voli che sono in partenza, in arrivo, se ci sono dei ritardi, eccetera, eccetera, e immaginate, insomma, di essere, che ne so, in ritardo sul treno che sta andando ad un aeroporto, oppure su un autobus, sull'automobile, eccetera, eccetera, uno vede qual è la situazione, magari in una giornata un po' particolare. È sicuramente un aiuto, non è che risolve tutti i nostri problemi, è meglio sempre arrivare all'aeroporto per tempo, quindi per gestire tutte le emergenze del caso. Grazie Enrico per essere stato con noi. L'appuntamento allora con 2024, col podcast su radio24.it, e al prossimo sabato del villaggio. Ciao Enrico. Molto bene, buon divertimento, ciao. E adesso parliamo di cinema. Chi è pronta a volare? Io, come un supereroe. Meglio, come un vampiro. È mezzo umano. Forse non è adatto a volare. Zitti, è così che imparano. Ti prego, no. E allora, pronti? Via! Ancora non vola. Volerà? Ancora no. Ce la farà. È alta la torre. Drac! L'ho fatto anch'io la prima volta. Sta arrivando troppo vicino a terra. Sapete una cosa? Non volerà. E torniamo dunque a parlare di animazione in questo sabato del villaggio, perché è il momento di parlare dei film in uscita questo fine settimana, è il momento di collegarci con il nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti. Quindi partiamo proprio da un film di animazione questa settimana, Franco. Sì, assolutamente, perché arriva nelle sale italiane Hotel Transilvania 2, che dopo il successo clamoroso e anche inaspettato del primo film, che ha raccolto incassi mostruosi in tutto il mondo, pensate che anche questo Hotel Transilvania 2 in America ha quasi sfiorato i 100 milioni di dollari di incasso, arriva appunto nelle sale italiane con i talent, le voci di Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, bravo il regista Gennady Tartakovsky. In questo caso nasce il figlio di questa coppia mista, diciamo un po' Twilight, vampiro umano. Dovremo capire se il neonato è più vampiro o più umano, lo faremo attraverso una serie di irresistibili situazioni che formano poi un piccolo film di crescita, se vogliamo, in questo senso, sempre con la grande tenerezza e anche un doppiaggio davvero molto azzeccato. Il film è disponibile in 2D e in 3D. Io ricordo che, soprattutto chi andrà a vederlo dal 12 al 15, deve ricordarsi che per spendere 3 euro per la festa del cinema deve vederlo in 2D, perché il 3D è fuori dall'offerta, diciamo così. Mi piace molto questa notazione preziosa, questa guida per l'uso. Film italiani, c'è un'uscita interessante questo fine settimana, poli opposti, lo andiamo a vedere? Sì, sì, sì, lo andiamo a vedere, perché è un tentativo interessante di fare commedia italiana, però guardando molto alla sophisticated comedy americana degli anni 50 e 60, no? A quei film che facevano sognare anche un po' per l'immedesimazione. Il film è l'esordio alla regia di un lungometraggio di Max Croci, e l'attore protagonista è Luca Argentero, anzi sono Luca Argentero e Sara Felberbaum. Luca Argentero l'avremo tra l'altro in trasmissione alle 18, La Rosa Purpurea, che racconta la storia di un avvocato divorzista e un terapista di coppia. Chiaramente, come da prassi, i poli opposti si attraggono, e chiaramente ci sarà una storia d'amore tra questi due personaggi. Mi piace sottolineare il ruolo di Luca Argentero, perché si sta sempre più affermando come attore adatto proprio a questo tipo di commedia sofisticata, e se troverà Luca Argentero registi e sceneggiatori capaci di valorizzarlo, può diventare davvero un attore quasi prototipo, se vogliamo, per il cinema italiano in questo genere. Voglio concludere con un film di cui si è parlato tantissimo nei giorni della mostra del cinema di Venezia. In realtà si è parlato più per la forma fisica del protagonista, dobbiamo dire la verità. Finalmente esce, e dico finalmente perché a me piacerebbe che i film uscissero molto più vicini ai festival del cinema, nei quali noi ne parliamo molto. Finalmente esce Black Mass con Johnny Depp. Franco, dacci qualche consiglio o sconsiglio in merito. Ma guarda, è un film controverso, quindi difficile essere netti e sicuri e categorici nel consigliarlo o sconsigliarlo. Sicuramente è un film che ha dentro anche delle innovazioni per il genere del gangster movie, di questo si tratta, una vera e propria carneficina dall'inizio alla fine in 122 minuti. La storia è quella di un agente dell'FBI che appunto si mette in contatto e persuade un gangster irlandese, interpretato appunto da un pingue Johnny Depp, a collaborare con l'FBI per eliminare la mafia italiana. italiana, questo è un po' il plot, però più che il plot sono importanti le modalità di questo film. Allora io dico, se siete appassionati di gangster movie è un film da non perdere, perché è un film che può darvi una nuova visione anche di determinate modalità espressive del genere. Se invece già magari quel genere non vi piace particolarmente, questo può risultare un film particolarmente criptico, e allora magari è meglio rivolgersi ad altro. Franco, allora l'appuntamento con te è più tardi, dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Invece noi ci risentiamo nel Sabato del Villaggio sabato prossimo, dunque a presto Franco. Assolutamente, ci sentiamo sabato prossimo. Sai una da Ciro a Cocoruno, basta la numero, rimane la romana, vanno pure a Ciro, il problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra, scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Il sabato del villaggio. Eccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, ancora in diretta da Emo Milano 2015, la fiera mondiale delle macchine e utensili. Siamo al padiglione 14 qui a Emo Milano 2015 per la seconda ora del sabato del villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Poi dalle 17 alle 18 ci sarà la nostra terza ora insieme con Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete e RadioTube. Ma cosa succederà invece in questa seconda ora del sabato del villaggio? Beh, la TV, con il grande successo dei Capitani Coraggiosi, cerchiamo di capire questo fenomeno inossidabile, i libri del momento con i consigli di Alessandra Tedesco, torniamo anche a parlare di consumi e tendenze, mi dicono che andremo nello spazio, non so come, ma prima un po' di bella, bellissima musica. Lama che arriva dritta al cuore, e non so ancora come dirti quello che vorrei. Non c'è una sola cosa. Questa è Su una lama di Mauro Ermanno Giovanardi, un pezzo bellissimo che viene da un disco bellissimo che è Il mio stile, ed è l'album che si è aggiudicato la targa Tenco per l'album dell'anno. Parliamo di targhe Tenco, parliamo del premio Tenco 2015 e quindi del club Tenco. Noi abbiamo in collegamento il responsabile artistico del club Tenco. Buongiorno Enrico De Angelis. Buongiorno a tutti, ciao. Enrico, grazie. Che piacere trovarti. Sai perché voglio parlare già adesso del club Tenco e del premio, sì, Tenco? Perché sarà dal 22, sì, al 24 ottobre. Sì. Quindi io, sì, voglio già invitare gli ascoltatori che volessero venire a organizzarsi per fare la trasferta a Sanremo, perché bisogna, brava, avere il tempo di pensarci. Quindi ho, brava, detto colleghiamoci questa settimana con Enrico che ci spiega cosa succederà a Sanremo dal 22 al 24 ottobre. Premio Tenco, tre serate, che cosa succederà? Tre giornate. Appunto, tre giornate, perché non solo le tre serate, sì, ma tanti eventi, le certo. Le riempiamo di cose, sì. Allora raccontaci un po', 22-24 ottobre. Allora, torniamo al Teatro Ariston dopo vari anni di in cui siamo stati a Casinò e addirittura anche in altre città, quindi tre serate grandi in tutti i sensi. La cosa più importante da dire, forse la prima cosa da dire, è che noi quest'anno dedichiamo il Tenco a Francesco Guccini. Ogni tanto noi riserviamo la nostra rassegna a un tema, a un personaggio, insomma la facciamo monografica, E questa volta diciamo che la storia della canzone d'autore in Italia ci ha obbligato ad arrivare a Francesco Puccini e dedicargli tutto. Francesco già ebbe addirittura nel 1975 il premio Tengo, che è il nostro massimo riconoscimento, che allora davamo anche e soprattutto ad artisti italiani. Quindi sono passati giusto 40 anni da quel premio. Quest'anno poi Francesco ha compiuto 75 anni, insomma lo festeggiamo così. Questo vuol dire che tutte i nostri eventi collaterali, quelli del pomeriggio per esempio, saranno incentrati sulla sua figura con la partecipazione di molti personaggi e proiezioni eccetera, e poi che la sera sul palco dell'Ariston tutti gli artisti che abbiamo invitato faranno una sua canzone, ciascuno a modo suo. Quindi, che meraviglia, poi il cartellone è immenso, cerco di dirli un po' velocemente, 22 ottobre a Pino, John De Leo, Vittorio De Scalzi, Cristina Donà, La Scapigliatura, Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti del Jazz, diretta da Paolo Damiani e Roberto Vecchioni, e già questi basterebbero, ma questo è solo giovedì 22, venerdì 23, Carmen Consoli, Armando Corsi, Mauro Ermanno Giovanardi, appunto, Jackie McShee, Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Vince Tempera con Vanessa Tagliabue York, Leonardo Pieraccioni e Bobo Rondelli. Sabato 24, Cesare Basile, Samuele Bersani e Pacifico, Boss e Fusking, Musici and Friends, Ted Dubois, Giovanni Truppi. Vorrei solo farti ancora spiegare una cosa, perché è una di quelle cose che si spiegano per una vita, ma è difficile ogni volta orientarsi. Allora, noi abbiamo parlato di Mauro Ermanno Giovanardi, che ha vinto la targa per l'album dell'anno. La targa per l'album in dialetto è andata a Cesare Basile. La targa per l'opera prima alla Scapigliatura, la targa per gli interpreti di canzoni non proprie ai Ted Dubois, la targa per la miglior canzone ex aequo tra Il senso delle cose di Cristina Donà e Saverio Lanza e Le storie che non conosci di Samuele Bersani e Pacifico, appunto con la partecipazione di Francesco Guccini. Queste le targhe, cosa diversa invece sono i premi Tenco, perché noi ci confondiamo sempre, i giornalisti sbagliano sempre, una cosa sono le targhe e una cosa sono i premi. È una cosa, poi sono i nostri inviti autonomi che noi facciamo a nostra discrezione nel Club Tenco per gli artisti che di cui molti hai già citato e che vengono alla rassegna. Faccio un esempio subito su questo, così ci capiamo. La Scapigliatura noi l'avevamo già invitata di nostra iniziativa alla nostra rassegna, perché ci era piaciuto il loro disco, ci piace sempre presentare dei personaggi nuovi e avevamo scelto loro. Poi loro hanno vinto la targa Tenco. Quella non, la decisione della targa non è nostra, non è del Club Tenco, ma è di una giuria di tantissimi giornalisti, sono oltre 200 che noi chiamiamo al voto, poi votano quasi tutti, ma siamo comunque sui circa 180 votanti e noi non mettiamo lingua in queste scelte, in queste decisioni, e quindi sono i critici musicali che designano queste targhe. Il premio Tenco invece è un'altra cosa ancora, questa sì, lo scegliamo noi. Il premio Tenco è un premio alla carriera, mentre le targhe Tenco sono riservate ai dischi migliori usciti nell'ultimo anno, italiani. Il premio Tenco è dato alla carriera, prevalentemente lo diamo ad artisti stranieri, ma l'abbiamo dato anche ad italiani. E quest'anno tra l'altro abbiamo scelto Jackie McShee, la grande voce dei Pentangle, e quindi siamo nella zona della rivoluzione inglese folk, jazz, rock, ecco. Fantastico. Adesso sono stato abbastanza chiaro oppure... Ma non lo so, guarda, confusione. Che ci sbaglieremo ancora, guarda che leggerai sì, so, ancora cose sbagliate. Voi vi sbagliate, io dico voi perché in realtà no. Dovrei dire noi perché sono anch'io un giornalista, però insomma almeno questa cosa qua io non la sbaglio. No, io devo dire che dopo tanti anni di voto quasi puntuale, io arrivo sempre all'ultimo minuto, l'ho imparato anch'io. Tu sei una giurata, sei una sono che una vota giurata. Anche tu, sì, tra i critici musicali, tra l'altro tra i critici musicali che stimiamo di più e a cui vogliamo anche più bene, se posso permettermi di dirlo, che e quindi che la cosa l'avrai imparata. Sì, io devo dire di sì. Voglio dire un'ultima cosa importante, se si va sul sito clubtenco.it c'è anche il link per prenotare i biglietti. Sì, esatto, per prenotare gli abbonamenti. Fantastico, grazie, veramente ecco. Grazie Enrico De Angelis. Figurati. Perché così c'è il tempo per organizzare la gita Sanremo 22, 23, 24 ottobre. Benissimo. Grazie Enrico, responsabile grazie artistico te, del Club Tenco, tutti. A presto. Grazie. Allora, noi ci ritroviamo tra poco perché ci sono le indicazioni per chi sta viaggiando. C'è molto traffico, sentito dagli appuntamenti precedenti, quindi sono particolarmente preziose. Ci ritroviamo ancora tra poco col Sabato del Villaggio. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta il Sabato del Villaggio. Eccoci ancora con il Sabato del Villaggio. Intanto arrivano dei messaggi anche per i collegamenti precedenti, quindi io li faccio avere ai conduttori. Ad esempio, un amico che è stato per lavoro in Perù e ci consiglia di mangiare un altro piatto tipico peruviano, l'anticucho. Io adesso vado a cercare cos'è, perché ho deciso di andare a mangiare peruviano dopo questi consigli di Davide Paolini. Daniele di Vicenza invece si riferisce a quello che ci diceva Enrico Pagliarini sui denti stampati con le stampanti 3D, e dice che è molto tempo che esistono CAD, CAM, che eseguono denti in ossido di zirconio, polimeri o titanio, acciaio per odontotecnici, e stanno nascendo addirittura per fare le protesi totali. Poi ci sono i complimenti per Enrico Pagliarini per la scelta delle app, perché so che le app sui voli hanno particolarmente incuriosito e appassionato. Lorenzo da Mantova invece mi dice che il riso alla pilota mantovana non c'entra con Nuvolari, perché il nome deriva dalla pila, che è il contenitore del riso. Allora, la spiegazione a me sembrava molto romantica, quella che si diffonde un po' in rete su Nuvolari. Lo so che magari Lorenzo non è vera, però è carina, sarebbe carino. Vabbè, insomma, sono sempre un po' fantasiosa, mi piacciono queste cose un po' leggendarie. Adesso però è il momento nel nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci, lo sapete, negli acquisti mentali, è il momento di parlare, tra i piaceri della vita di cui parliamo sempre, di libri. Ciao Catare. Dottore. Buongiorno a tutti. Aspetta un minuto. Catare, meglio dopo. Pronto, Olivia. Ciao amore, come stai? Come stai oggi? Stai meglio? Ho ancora un po' di febbre. Respiro male e il medico mi ha detto di riposare ancora qualche giorno. Giovane Montalbano ha avuto l'ennesimo grande successo, questa fiction di Rai 1, e credo che si parli ancora di grandi successi per il suo autore. Ho un po' questa sensazione, lo chiedo subito alla nostra super esperta di libri, Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, ebbene sì, Camilleri ogni volta che ne sforna uno, possiamo dire, arriva sempre fra le prime posizioni della classifica. È uno scrittore veramente molto amato in Italia e il suo ultimo libro è forse uno dei libri di cui si sta parlando di più in questo periodo. È un piccolo libro, sono meno di 100 pagine, si intitola La Targa di Andrea Camilleri, e Rizzoli l'ha fatto uscire il 6 settembre, il giorno in cui Camilleri ha compiuto i 90 anni. Insomma, è stato anche un modo per festeggiare questo scrittore veramente molto amato. Stavolta però Montalbano non c'entra nulla, nel senso che è ambientato a Vigata, questo racconto lungo, diciamo così, però nel 1940, ben prima che comparisse Montalbano, in particolar modo la sera dell'11 giugno, cioè il giorno dopo l'entrata in guerra dell'Italia. Che cosa succede? Allora, c'è un tale Michele Ragusano che ha passato 5 anni al confino nell'isola di Lipari, perché insomma era stato considerato un diffamatore del regime fascista. Torna a Vigata e va così direttamente al circolo Fascio e Famiglia. Qui nessuno lo saluta. Michele Ragusano si rivolge direttamente a Don Emanuele Persico, un ultra novantenne che insomma era uno squadrista famoso all'epoca, e gli dice, provo a pronunciarlo in siciliano, Sentiamo. Il nome di Antonio Cannizzaro vi dice niente? Fatto sta che a Don Persico prende un colpo e muore. Cioè, basta sentire questa parola, questa frase, e Don Persico muore. Quindi il povero Ragusano viene non solo pestato dai fascisti che erano presenti in questo circolo, e condannato a 15 anni per omicidio, perché di fatto l'ha ucciso, da passare nel carcere di Ventotene. Invece per questo Don ci sono funerali in pompa magna. Insomma, diciamo che anche in questo caso Camilleri ha fatto un po' un rovesciamento con grande ironia, ma anche sarcasmo fra bene e male e fra giusto e ingiusto. Insomma, si è divertito un po' in questo senso. Beh, non so neanche se chiederti a chi consigliarlo, visto che comunque lui è un fenomeno talmente presente, famoso, che insomma i suoi fan li ha già e sono tantissimi. Guarda, ti posso dire che nel momento in cui esce un libro di Camilleri ritornano poi subito in classifica, vengono venduti un po' tutti i suoi libri, e infatti è tornato in auge il suo ultimo Montalbano, ossia La giostra degli scambi, pubblicato da Sellerio. Io sicuramente lo consiglio a tutti quelli che amano Camilleri, e vabbè, forse loro l'avranno già comprato, ma secondo me anche a chi vuole avvicinarsi a Camilleri non amando particolarmente il romanzo di genere, quindi il poliziesco, il Montalbano e così via, perché dà comunque quel tocco di ironia tipica di Camilleri in una storia che con Montalbano non c'ha a che vedere nulla. Beh, devo dire che così qualcuno in più verrà conquistato da Camilleri, i pochi che ancora non l'avessero amato tantissimo. Libri di cui si parla tantissimo in questo periodo, Alessandra? Allora, c'è un libro di cui si sta parlando molto, e perché è appena uscito, lo scrittore anche qui è uno di quelli insomma molto amati, soprattutto da un certo tipo di lettore italiano, e si intitola Anna, di Niccolò Ammaniti, pubblicato da Einaudi. Tu mi dirai cosa ne pensi, ti è piaciuta? Siccome non l'ho ancora letto, io ti dico che è un libro di cui si parla, però mi impegno a leggerlo questa settimana e ti dirò la prossima. Diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori a sabato prossimo, al sabato del villaggio, per magari ci possono dire anche loro se lo stanno leggendo che cosa pensano di questo Anna di Ammaniti. A me mi devo piace, dire, lui tipo, piace molto. Tipo circolo letterario, sì. Ci diamo un appuntamento, leggiamo il libro, poi lo commenti, mi piace, il club dei lettori mi piace tantissimo. Leggetevi Anna questa settimana, io me lo leggerò in questo fine settimana e poi ne parleremo appunto sabato prossimo. Io, senti che citazione, prometto di leggerlo, che ti do già il lancio per un altro titolo. No, ma Marta mia. Cagnola, cioè veramente sei peggio di Mentana nel fare i collegamenti fra una notizia e l'altra, perché tu sai già che il prossimo libro di cui ti parlo si intitola Prometto di sbagliare, l'ha scritto il portoghese Pedro Chagas Freitas, spero di pronunciarlo bene, pubblicato da Garzanti. Ed è un libro d'amore romantico. Io quando penso ai libri romantici penso sempre a te, Marta, perché so che... Lo sai che io sono una romantica proprio irrecuperabile. Irrecuperabile, però qui non si parla solo di amore fra uomo e donna, ma si parla veramente di amore a 360 gradi, anche fra genitori e figli, fra nonno e nipoti e così via. Però ecco, rapidamente la trama. Un uomo e una donna, ovviamente, si rivedono. Poi ovviamente, no, hai ragione. Chiedo venia. In questo caso, un uomo e una donna si rivedono, diciamo, 10 anni dopo. Avevano avuto una relazione, erano stati molto innamorati. Lui l'aveva lasciata senza dare una spiegazione, ma va che strano. Entrambi nel frattempo si erano rifatti una vita. E però in questo incontro si rendono conto che quell'amore, come dire, non è mai finito. Allora, quando ho incontrato Pedro Chagas Freitas, la prima cosa che gli ho chiesto, insomma, il titolo Prometto di sbagliare, mi sembra proprio una dichiarazione di intenti, ma è veramente così? Sentite cosa ci ha risposto. Sì, è una dichiarazione di intenzioni, nel senso che tutti noi siamo seri che falham, seri che sono insufficienti, seri che hanno imperfezioni, e no fondo essa imperfezione acaba por ser a única promessa que nós podemos fazer ao outro. Sì, in effetti noi siamo esseri che sbagliamo sempre, siamo insufficienti e siamo imperfetti, e in effetti questa imperfezione sarebbe proprio l'unica promessa che noi potremmo fare. E infatti, diciamo, una delle frasi che viene riportata poi sulla copertina del romanzo è che l'amore arriva quando smettiamo di essere perfetti. Beh, allora possiamo dire che tutti siamo innamorati, tutti abbiamo l'amore, perché credo che nessuno di noi pensi di essere perfetto, o non è così? Nós, o que está em causa não é o sermos imperfeitos ou não, é a nossa obsessão pela perfeição. Quello che è in causa non è essere perfetti o imperfetti, ma è la nostra ossessione nei confronti della perfezione. Quando somos obcecados pela perfeição, tendemos a ser mais desumanos, quando a humanidade está na imperfeição. Né? Quando siamo accecati dalla perfezione, siamo sempre meno umani, o siamo disumani, perché siamo accecati appunto da questa imperfezione. A humanidade está muito na imperfeição, na minha capacidade de integrar essa imperfeição, fazê-la parte de mim e não de a recusar, de a desprezar quase. L'umanità, essere umani, vuol dire cercare di integrare la perfezione e non cercare di rifiutarla oppure di evitarla a tutti i costi. Beh, io devo dire che sono già un po' innamorata dello scrittore, io da romantica, con questo portoghese che già mi piace tantissimo. Allora hai detto questo lo consigliamo ai romantici. Ma questo consigliato ai romantici, mi si cariano un po' i denti. No, in realtà non è da cariarsi i denti, devo dire la verità, perché è scritto bene, perché comunque è una storia appassionante. Appunto, poi si parla anche di amore a 360 gradi, però diciamo lo consigliamo a chi ha voglia di romanticismo. Alessandra, abbiamo ancora il tempo per un libro, raccontaci l'ultima tua scelta per questo sabato del villaggio. Allora, questo è un mio consiglio personale, si intitola Quello che hai amato, 11 donne, 11 storie vere, a cura di Violetta Bellocchio, pubblicato da UTET. Potrebbe sembrare anche qui una cosa romantica, amore, sì, ma amore in senso anche molto lato, perché Violetta Bellocchio, che anche lei è una scrittrice, ha chiesto a 10 giovani scrittrici italiane, le ha fatto una domanda, dice: raccontatemi quello che avete amato. Le autrici erano libere di muoversi in qualsiasi direzione, bastava che la storia fosse vera. E così, come dire, c'è stata una scrittrice che ha parlato di un oggetto pieno di ricordi e di amore, che era una panda bianca, oppure un'altra che ha parlato di un'età di cui lei è stata particolarmente innamorata. E allora vi cito alcune di queste giovani autrici: Nadia Terranova, Claudia Durastanti, tra l'altro vi consiglio la sua opera prima, A Chloe per le ragioni sbagliate, Marsilio del 2013, è un libro veramente tostissimo, pugno nello stomaco, ma veramente bello. Poi ci sono Giuliana Altamura, Carolina Crespi e appunto la stessa Violetta Bellocchio e così via. Quindi Quello che hai amato è secondo me un libro consigliato alle donne che vogliono capire le donne, che vogliono forse capire un po' se stesse, e agli uomini che vogliono capire cosa amano le donne. Sono molto contenta anche perché hai citato nomi di persone che conosco e che stimo, sono davvero molto contenta di questo consiglio. Alessandra, però voglio dare un consiglio io, quello di ascoltare Il Cacciatore di Libri. Dici tu quando e come? Come sempre Il Cacciatore di Libri, il sabato mattina alle 6:30 per i mattinieri e in replica alle 22, ma poi lo trovate sempre su podcast. E per essere sempre informati potete seguirmi naturalmente su Twitter, in modo tale da sapere che cosa stiamo combinando, cosa stiamo leggendo, cosa vi stiamo preparando per le settimane successive. Chiocciola Ale Teddina per trovarti su Twitter. A sabato prossimo, Alessandra. Bacetti e divertiti a Emo. Certo, a presto. Beh, siamo tornati ancora con questo Montalbano che così ci ha fatto molto divertire, è andato benissimo in televisione, abbiamo sentito anche il libro, l'ultimo libro di Camilleri che sta dominando ancora una volta le classifiche. Questo è il nostro appuntamento con i libri, con Alessandra Tedesco, ma dicevamo poco fa il podcast per recuperare gli appuntamenti con Il Cacciatore di Libri, ma anche per chi avesse perso la prima ora del Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato nella prima ora di tecnologie con Enrico Pagliarini, abbiamo parlato di cibo, la cucina peruviana, ma anche le grandi trattorie tra Mantova e Cremona con Davide Paolini, i consigli del fine settimana al cinema con Franco D'Assisti, e poi delle osservazioni molto interessanti per quanto riguarda il cinema di animazioni con Gabriele Niola, esperto di tecnologie e cinema. Davvero uno spazio è stato da non perdere, quindi vi consiglio di recuperarlo con il nostro podcast radio24.it se non foste stati con noi nella prima ora. Ma saremo ancora insieme fino alle 17. Vi anticipo che tra poco parleremo di consumi, di nuove tendenze, e poi torneremo a parlare di televisione anche questa settimana per una trasmissione che ha fatto veramente un grande, grandissimo successo, e cercheremo di capire un po' le ragioni del fenomeno. Tutto questo però tra poco, perché abbiamo una breve pausa, un pochino di pubblicità e poi ci troviamo ancora con il Sabato del Villaggio, e poi vi ricordo ovviamente che dopo le 17 ci sarà l'appuntamento con RadioTube, ma adesso una piccola pausa. Il Sabato del Villaggio. E ora nel Sabato del Villaggio, il nostro villaggio globale, è il momento di parlare di consumi. E con questo riferimento spaziale riprendiamo con i nostri collegamenti sui consumi, sulle tendenze, per sapere tutto quello che ci riserva di nuovo questo mondo e quest'altro mondo, appunto, perché partiamo con questo tema spaziale. Chissà come mai, lo chiediamo subito alla nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, perché Marta, mai come quest'anno lo spazio, l'esplorazione spaziale fa tendenza. Ho unito un po' di puntini. Allora, è un anno di grandi scoperte. Una decina di giorni fa l'annuncio dell'acqua su Marte, qualche ora fa del cielo azzurro di Plutone con tutte le gallerie sui siti, poi a luglio il pianeta gemello della Terra distante più di 1000 anni luce. Un anno anche di grandi personaggi, pensiamo ad esempio a una figura come quella di Samantha Cristoforetti, star sui social, grande attenzione mediatica, e poi anche le mostre. A Milano si è appena chiusa la mostra europea itinerante dedicata all'esplorazione dello spazio. Insomma, Marta, allora sulla scia di tutto questo ho pensato di ripercorrere la storia di un brand, di un prodotto icona del Made in Italy che con lo spazio ha molto a che fare. Un prodotto che ad alcuni di noi, a me per prima, ricorda anche l'infanzia. Non so se anche a te, Marta, me lo dici magari fra pochissimo. Parliamo di Moon Boot. Ah, io mi ricordo che facevo una fatica a camminare, ho imparato un po' da più grandina, però mi divertivo un sacco. Ecco, allora abbiamo in collegamento qualcuno che ne sa molto. Maurizio Di Trani è il direttore marketing di Moon Boot. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Allora, forse non tutti lo sanno, ma Moon Boot, l'idea di questi stivali lunari, appunto, nasce negli anni 70 in corrispondenza di una grande impresa spaziale. Sì, esatto. L'ispirazione alla nascita di un prodotto che ormai tutti conoscono è legata proprio allo spazio, perché fu l'impronta di Neil Armstrong sulla Luna, il primo uomo che mise piede sulla Luna, che diede poi la scintilla creativa a Giancarlo Zanatta, che è l'inventore del Moon Boot, quindi si parla del luglio del 69. Un look che però poi ha superato anche i confini della montagna, che immagino fosse la prima ispirazione per la scarpona imbottita al di là del look dell'astronauta. Ma sì, in effetti Moon Boot è conosciuto in tutto il mondo per essere il dopo sci per antonomasia. Nacque come dopo sci rompendo le tradizioni dell'epoca che volevano gli scarponi tutti piuttosto tristi, pelosi, fatti con materiali naturali, portando invece un po' il colore, il senso del pop che caratterizzava un po' quell'epoca, e per 40 anni è stata davvero il simbolo internazionale del dopo sci. Negli ultimi anni invece Moon Boot, grazie anche alla creatività che il marchio ha sempre avuto, ha cominciato a sviluppare anche nuove linee che oggi non sono più così legate solo alla neve, solo allo sci, ma che sono molto più portabili in tutti i climi freddi e non solo, anche in città, con nuove forme, con nuovi stili, con nuovi materiali. Icona del design made in Italy, amato da molte celebrities, ecco, citiamone un pochino. Vabbè, ma noi potremmo partire dagli estremi, da Paul McCartney, che con sua moglie indossa i Moon Boot in una jam session negli anni 70, fino ad arrivare a Miley Cyrus, che ha indossato i nostri Moon Boot sia nel concerto di Wimbledon che durante l'ultimo video degli MTV Awards. In mezzo praticamente tutti. La forza del marchio forse è proprio quella di essere un marchio che unisce generazioni, ceti sociali, origini diverse, insomma in una sorta di grande comunità dei Moon Boot People. Beh, che meraviglia. Quindi quest'anno, credo di aver capito, Maria Luisa, il look sarà tutti un po' astronauti. Assolutamente sì, ci adegueremo subito, Marta. Grazie a Maurizio Di Trani per essere stato con noi. Ma grazie a voi, è stato un piacere. Maria Luisa, allora, prima che io vada a bardarmi come un astronauta, però il tempo non è ancora quello giusto, è il momento però di conoscere i nostri consigli anticrisi. Anche quest'anno il nostro appuntamento è il sabato del villaggio, tutti i sabati. Consumatori informati e responsabili, se ti ricordi, Marta, queste le parole d'ordine che abbiamo sempre usato sono quelle che servono nel nuovo scenario dei consumatori che grazie alla crisi hanno imparato e hanno acquisito tante astuzie. Sono quelle che ci racconta sempre la nostra esperta, la direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina, bentrovata. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qui, parleremo di shopping club. Cosa sono gli shopping club? Io sono curiosa perché spesso ne sento parlare, raccontaci un po'. Allora, questi shopping club in realtà nascono, sono un po' figli di quello che si chiama barter, nome difficile che di fatto è il baratto. Il baratto tra chi? Tra di solito i media, pubblicità, contro merci delle aziende. Quindi si tratta di un baratto di cui a goderne siamo proprio noi consumatori, perché di fatto quello che succede è che ci sono questi club a cui bisogna essere iscritti. In alcuni casi solo se l'azienda, che deve avere più di 20 dipendenti, è iscritta ci si dà l'accesso, ma ormai sempre di più si stanno aprendo con un semplice tesseramento. E lì si può trovare di tutto, quindi lo consiglio assolutamente a tutti coloro a cui piace fare un po' di caccia al tesoro, perché difficilmente si ritrova sempre la stessa merce, però si possono trovare dai vini agli armadi, dalle auto ai cashmere. Facciamo un po' di nomi, Cristina, so che ci hai preparato una mappa. Guarda, una mappa che devo dire che facilita di più i consumatori del nord, in particolare quelli di Milano, dove abbiamo lo shopping club Garibaldi, dove abbiamo il Giudici sempre a Milano, Acqua Azzurra, ma ce ne sono anche qualcuno a Roma come Promo Club. Oppure se qualcuno vuole andarci online c'è baffoitalia.com, figlio di Publistore e con una mini celebrità come Roberto da Crema, che ne fa la pubblicità e si presenta appunto come Baffo Italia. Anche a Varese ci sono con reclamshoppingclub.it. Tutti questi posti hanno tutti dei siti dove ci si può andare, registrare, la tessera viene o stampata o inviata a casa, oppure si può fare direttamente in negozio. Poi ci sono i Bions Store, che sono sia a Cernusco, a Sesto, ma anche a Bergamo e a Torino. E anche in questo caso si può, se l'azienda è registrata, ci si accede direttamente. Se invece l'azienda non è registrata, fanno una carta invita a scheda temporanea. Quindi insomma diciamo che c'è la possibilità un po' per tutti. La cosa importante è non pensare di andare cercando una cosa specifica, meglio consultare prima i siti, vedere qual è l'offerta e poi farsi il viaggetto, perché normalmente non si tratta mai di negozi, spazi che stanno in centro città o comodi da raggiungere. Di fatto non hanno nemmeno la vetrina in linea di massima, sono in luoghi un po' difficili da trovare, però con l'aiuto di un navigatore ci si arriva sempre. Che tipo di prodotti troviamo in questi shopping club? Guarda, si va veramente dall'orologio di marca, passando per lo champagne, addirittura anche le automobili. Dipende appunto dalla... più o meno tutti, essendo scambi merci, più o meno quello che si vede in pubblicità, soprattutto sulle riviste che vanno in edicola, quel genere di pubblicità che noi vediamo in alcuni casi è proprio figlia di questo scambio merci, per cui in un qualche negozio, adesso non dico che Armani, Fendi e compagnia, sarà un po' più difficile di trovarlo, però già il mondo del cashmere di alta qualità questa cosa la fa abbastanza spesso. A volte persino i viaggi o i soggiorni negli alberghi, Cristina, me lo confermi? Assolutamente sì, viaggi e soggiorni negli alberghi, e quelli in molti casi non è necessario recarsi in negozio, ma basta acquistarlo online. Quindi il suggerimento è magari rivolgersi anche alla propria azienda per chiedere se hanno già stipulato degli accordi del genere o magari di stipularli, chissà. Esatto, perché alla fine non per l'azienda non ha nessun costo, sicuramente è un vantaggio per i dipendenti e alla fine siamo un po' tutti contenti. Molti CRAL lo fanno già, chi ha un CRAL aziendale può rivolgersi direttamente lì. Che tipo di risparmio consentono, Cristina? Sono cifre in alcuni casi anche importanti. Più sale il prezzo, più alto il risparmio, per cui possiamo pensare che per un orologio da polso del valore di 2.000 euro si possono arrivare a spendere 600-700 euro, così come invece ci sono anche dei prodotti alimentari dove magari per la bottiglia di vino da 10 euro la vendono a 8, per cui un risparmio sì interessante, ma di fatto non vale da solo il viaggio. Mi piace molto quest'idea. Io confesso che tendo a dimenticarmi di consultare le offerte che vengono proposte dai siti che sono affiliati alla mia azienda. Dovrò ricordarmene un po' di più. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. Ricordo che ti troviamo sempre su Twitter con il tuo account Cilazzati, e noi ci ritroviamo al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao Cristina. Perfetto, ciao a tutti, buon ciao, pomeriggio. A presto. Maria Luisa, invece con te l'appuntamento con Essere Avere. Essere Avere domani alle 22, non mancate. Domani alle 22 anche l'appuntamento con il podcast su radio24.it. Al prossimo sabato, Maria Luisa. Ciao Marta, a presto. Il sabato del villaggio. Ed eccoci insieme con l'ultimo blocco del nostro Sabato del Villaggio, gli ultimi minuti insieme da Emo Milano 2015 della Fiera Mondiale delle Macchine Utensili. Siamo al Padiglione 14, siamo ancora qui in chiusura di questo appuntamento col Sabato del Villaggio e con Emo. Adesso però dobbiamo parlare insieme di televisione e di musica, ecco qua. È bello. Allora, Capitano Gianni, per l'undicesima volta, buon concerto. Invece, capitano, tu sei il vero capitano. No, tutti siamo capitani. No. Ma che ti hanno degradato? No. Mi portate Morandi come capitano? Sì! Buon concerto a te. Oh, lo sai che siamo in televisione, in diretta. No, non ti sfugge niente. Ma ragazzi, guardate, Morandi è attento come una faina. 21:34. Senti, però, guarda, l'undicesimo concerto che facciamo, questo poi è un concerto speciale. Con le telecamere che le ha chiamate Morandi, che sapete, è uno che se non vede un sacco di gente. Del mondo che inseguono le nubi e cantano alla luna, che sotto la tempesta vanno fino in fondo e puntano il domani contro la sfortuna. Noi siamo quelli che sono spiccioli di storia. I capitani coraggiosi sono andati benissimo in televisione. Su Rai 1 la prima serata martedì 22% di share, la seconda serata 21,82% di share per questo duo Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Io ho riso moltissimo quando Cristian in redazione mi ha scritto una mail dicendo i moraglioni sono andati benissimo, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, sia musicalmente che in TV. Ma chissà come mai questo fenomeno, perché piacciono ancora così tanto? Lo chiediamo a un amico che torna sulle frequenze di Radio 24, il critico musicale del giornale Paolo Giordano. Bentornato Paolo. Eccomi, ciao Marta, ciao. Che bello risentirti su Radio 24, dico solo questo. Paolo, allora, secondo te perché il grande amore, il grande affetto e ancora questo ottimo risultato per Morandi Baglioni? Ma guarda, secondo me la risposta è nel pubblico che ho visto al Foro Italico quando c'è stata la prima data, tre o quattro generazioni insieme. C'erano dei ragazzini con le mamme e i ragazzini hanno conosciuto Morandi e Baglioni ascoltando la musica dei genitori e hanno sentito in qualche modo odore di casa e quindi sono andati a vedere il concerto, e c'erano ragazzine che ballavano ascoltando canzoni talmente vecchie che forse nemmeno i loro genitori erano nati quando sono state incise, e questo vuol dire che Morandi e Baglioni sono patrimonio collettivo ormai, e da una parte, e dall'altra una sconfitta dei critici musicali che per tanti anni hanno disprezzato o perlomeno deprezzato Morandi e hanno considerato Baglioni soltanto quello che cantava questo piccolo grande amore, ecco. Allora ti chiedo subito questa cosa, visto che lo anticipo agli ascoltatori, nella prossima ora in RadioTube invece avremo con noi i Pooh. Mi sembra un po' che la stessa cosa stia succedendo con i Pooh, cioè per tanti anni magari i critici hanno storto il naso o finto di storcere il naso, più probabilmente adesso sono amatissimi, e quando hanno fatto questa conferenza stampa per annunciare gli ultimi progetti c'ero anch'io, tutti commossi, anche quelli che poi magari non ne hanno scritto in quei termini, perché comunque cercano di mantenere un certo aplomb, grande affetto però. Guarda, hai detto la cosa giusta, tu ed io eravamo lì, io poi ho scritto il pezzo, tu ne hai parlato in radio, e abbiamo sentito, annusato, percepito tutti una commozione diffusa. Soltanto qualcuno ha avuto, tra virgolette, non il coraggio, perché sta parlando di mappatura del genoma, ma ha avuto, diciamo, la voglia di trasmettere questa emozione. Ma lì, in quel momento, mentre Facchinetti piangeva, mentre Riccardo Fogli tremava la voce, tutti noi siamo stati lì sentendo che eravamo in un momento che particolare, in un momento che ricorderemo tutti, ecco. Per quanto riguarda Baglioni Morandi, io ho avuto l'impressione anche qui che le loro emozioni riuscissero a trasmetterle. Adesso non so, sicuramente a gran parte della platea hanno toccato il tasto di tanti ricordi, lo dicevi, sì. Ma secondo te Baglioni e Morandi, io me lo sono chiesto perché poi non li ho incontrati insieme, sono davvero amici? Cioè, come è nato questo progetto insieme? Ma guarda, tante volte hanno, non tante volte, insomma qualche volta avevano già duettato in televisione, anche dal vivo a Lampedusa ad esempio, si erano incrociati al festival che Baglioni faceva, che si intitolava Oscià, e quindi da questo punto di vista non è che non si sono mai incontrati, e da una parte Morandi ha sempre detto ci siamo parlati, abbiamo sempre immaginato di fare un duetto. Dall'altra, Baglioni ricordava il primo momento in cui Morandi lo ha incontrato. Lo ha incontrato quando Morandi stava in qualche modo declinando nella propria prima parte di carriera, e invece Baglioni stava esplodendo. Morandi non lo riconobbe, non sapeva come chiamarlo, e lo chiamò Signora Lia. Hai capito? E allora, secondo me, alla fine tutto questo è stato un desiderio di Baglioni di appianare questa ferita, e hanno fatto questo giro di concerti, insomma questi 12 concerti insieme, che sono stati appunto importanti, molto di più di quanto ci si sarebbe immaginato prima, perché l'emozione era forte, e non io, che se potessi ascoltare solo i Black Sabbath, devo dire che la verità, mi sono emozionato, mi sono commosso, perché quella è la musica con la quale tutti noi, anche chi non lo ammette, siamo cresciuti. Allora, poco fa TV Talk, che io guardo sempre in differita, essendo in onda in contemporanea, però leggo i tweet, sì. J-Ax ha detto che se lui e Fedez facessero un programma insieme come Baglioni e Morandi, farebbero anche loro il 25%. Io direi che forse però devono ancora aspettare un pochino, sia per fare il duetto che il programma, che per fare il 25%. Sì, io direi, bisogna vedere intanto dove farebbero questo programma. Tu e uno lo escludo, mi sento di escludere che possano fare il 25% insieme in prima serata. Su altri canali il 25% non lo farebbero comunque, statisticamente impossibile. Quindi a meno che non sia canale 5, però la vedo molto dura. Direi che è stata, da come me la riferisci tu, io non l'ho sentito, non l'ho seguito, una boutade. Senz'altro, sì, no, anch'io leggo solo questo tweet che è arrivato. Il 25% probabilmente di share social, sì. Ah, certo, certo. Certo, lo share social lo farebbero esplodere. Adesso, scusami, ti interrompo, adesso che l'audit è sempre in crisi, bisognerebbe inventare anche lo share lo share social, no? Allora, qualcosa c'è già, qualcosa di Twitter ratings di Nielsen ci sono già, e anticipo anche agli ascoltatori che poi parleremo anche di questo argomento in RadioTube. Sai che Massimiliano Perri, un ascoltatore e molto amico, dice che vorrebbe una trasmissione con me e te insieme, a chi bisogna scrivere a Radio 24, però aggiunge senza offesa per Daniele Bellasio che arriva tra poco, quindi non diciamolo ad alta voce perché altrimenti... Beh, io sono come dire, quando sento queste cose mi commuove e mi inibisco da solo, sono autoinibente, diciamo. però ringrazio questo ascoltatore, senza dubbio tu sei una delle voci, diciamo, radiofoniche più autorevoli in Italia. Per me non sarebbe che un privilegio farlo, lo farei subito. E io ti aspetto sempre al sabato del villaggio, ecco, sempre, perché altrimenti poi qui a lui, che ovviamente insomma sono un suo follower, quindi più stima di così non so come dire. Grazie a Paolo Giordano per essere tornato a Radio 24. Paolo Giordano, critico musicale del giornale. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio delle 17, perché sarà il momento del nostro RadioTube, appunto, con Daniele Bellasio, con degli ospiti speciali. Tutto questo davvero dopo il giornale radio delle 17. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Il sabato del villaggio. Il tempo per i ringraziamenti qui da Emo Milano 2015, prima della nostra puntata specialissima di RadioTube. Valeria Bernardi in regia qui a Emo Milano 2015, Carmelo Lauricella negli studi di Radio 24, Cristian Goldoni in redazione, Beniamin De Zulian in assistenza a Milano, Davide Ciocia che ci ha mandato in onda e che adesso sta preparando le valigie. Ci cambiamo d'abito e andiamo alla nostra puntata di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, una puntata speciale, ve lo dico già, questa di RadioTube, Daniele. Sì, sei cambiata d'abito come a Sanremo. Come a Sanremo, come sì, a Sanremo. Sì, quasi l'abito da sera, quasi, però è una Abbiamo bella occasione. Abbiamo degli ospiti pazzeschi, sì, che riempiranno sì, questo studio e anche la regia di questo studio. Sì, secondo me sì, arriva tanta gente. No, diciamo i nostri account, et Marta Cagnola et Di Bellasio, diciamo il nostro hashtag RadioTube, che poi nella seconda parte della puntata diventerà Radio... Non diciamolo. È un gruppo. Dunque, noi invece raccontiamo l'imperdibile, l'imperdibilissimo, l'imperdibile di una settimana vista attraverso i video colti da internet ma ascoltati alla radio. Allora, io mi riallaccerei un po' alla scorsa settimana. L'avevamo detto. Serviva un commissario straordinario alle battute, ai video, alle dichiarazioni, alle comunicazioni. Non si sa. Questa è la settimana delle dimissioni. Sono dimessi tutti, sì. Sospesi chiunque. Sì. Si è rimasti io e te. Il sindaco emerito di Roma. Non si sa. Per questi 20 giorni è sospeso anche lui, ecco, più o meno. L'ha detto. 20 giorni di tempo. Sì, per fatemi cambiare idea. Allora, non si sa se proprio ci sarà una ressa a dire no, ripensa, non si sa. Intanto sentiamo come ha spiegato Ignazio Marino le sue dimissioni via video, forse, su Facebook. Sentiamo Ignazio Marino. Ma esiste un problema di condizioni politiche per compiere questo percorso. Queste condizioni oggi mi appaiono assottigliate, quasi assenti. Per questo ho compiuto la mia scelta, presento le mie dimissioni, sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni. Non è un'astuzia la mia, è la ricerca di una verifica seria, se è ancora possibile ricostruire queste condizioni politiche. Eccolo qua, il sindaco, ex sindaco, non è che si è capito. Il sindaco ha speso per 20 giorni. Ma secondo te, senza social, il caso Marino sarebbe stato meno grave? Cioè, è l'uomo più social bersagliato del mondo. Sì, anche perché lui ha cercato di difendersi sui social, ma non è che proprio gli è venuto benissimo. Allora, se non sapete usarli, meglio, diciamo così, in dubbio pro non fare nulla. In dubbio prosecco, come si dice. Allora, carino. Io mi sono sei segnata. Sei preparata di battute stasera. Ti sei segnata leggendo su un po' di tweet carini. A proposito dei 20 giorni, questa mi è piaciuta, il triste mietitore. Ha scritto, Marino si dimette ma dice ho 20 giorni per ripensarci, deve aver tenuto lo scontrino. Vabbè, cattiva. Senti, sì, perché Pinuccio, ci sono delle polemiche. Pinuccio che dice: destinazione Svezia, parte da Ciampino il primo gruppo di rifugiati. In realtà erano 20, poi hanno scoperto Marino in mezzo. Ti povero. Ma lui va in America di solito. Genio comunque. 78. Sì, Marino dice? Torna a lavorare in ospedale ed è subito incubo. Firmi queste dimissioni. Basta, cazzo! Non sue, dei pazienti. Ma scusa, però anche il nostro amico Alberto Inferi. Secondo me è la più bella. Leggila, secondo me è la più bella. Se vuoi, di tutte. L'hai trovata tu? No, leggila. No, leggila, allora dice crocetta, che per i non giornalisti vuol dire un'agenzia importante. Marino, peccato, mi c'ero affezionato a fare il sindaco di Kansas City. È bellissimo. Poverino, ma magari Kansas City lo può ancora fare, non si sa. Beh, infatti, chissà come sono le zone. Leggi. Non so, Kansas City non è male. Ma allora io direi che un però altro c'è Marino, un altro. No, dai, no, dai, Berlusconi. Dai, Berlusconi, Berlusconi. Berlusconi ha aperto. Le porte della non a tutti, sua misteriosissima. Sai che le testate Brianzole sono mozzate subito molto. Ah certo, perché lì nei paraggi di Vimercate, però non è proprio Vimercate, è Arcore. Beh, siete vicini di casa, sì, tu e Berlusconi. Sì, è proprio lo il paese dopo. Passa? Ma sai che se è leggenda, insomma, tutti sanno che quando passa l'elicottero sta per arrivare. Sì, ma soprattutto abbiamo sempre riconosciuto gli elicotteri perché si sapeva. Saltate. E abbiamo sempre pensato, sta passando Berlusconi. Ma sul che serio, ma da sempre. Marco è più piccolo di Vim City. È piccina. Voi siete la capitale lì. Sì, noi siamo la capitale. Insomma, dopo questa lezione di bassa Brianza passiamo alla casa un grande di Berlusconi Brianzolo. Che ha aperto la sua casa. Ad Alan Friedman. Sì, l'ha aperta ad Alan Friedman perché si è fatto intervistare da Alan Friedman che insomma ha raccontato tutto questo a Ballarò. Alan Friedman ha detto: Berlusconi, rispondendo alle mie domande, ha scritto su un block notice: non me ne andrò fino a che non avrò vinto un'altra volta. Deve essere un altro contratto con gli italiani. No, perché secondo me è tipo altro contratto sugli italiani. E poi hanno anche girato delle immagini. Sì. Le mostriamo alla radio? Mostriamo, c'erano dei quadri bellissimi. Mostriamo vediamo, le immagini vediamo. Alla radio. Questo sembra blindato. Sì, questo è il mio studio. Con tanta roba dentro, come vedi, è come con tutte varie cose nel mio passato. Ho avuto 5 squadre, volley campione del mondo, rugby campione d'Europa, hockey campione d'Europa, rugby campione d'Italia, baseball e calcio. C'aveva il club di rugby. Cioè, ha vinto anche a baseball. Vabbè, va sì, a hockey. Il club di rugby. Sì, poi tra l'altro Friedman ha fatto anche il libro, è My Way. E questo il primo libro dell'era Mondazzoli, lo sai? Sì, grande fermento, insomma, grande fermento. Anche la Mondazzoli sui social se n'è parlato tanto, parecchio. Tantissimo. Dai, parliamo ancora, chiudiamo con la politica. Sì, perché abbiamo questa settimana era la settimana dell'approvazione in Senato della riforma del Senato. Sì. E a un certo punto il Movimento 5 Stelle si è presa. Ma li hanno letti tutti i 18 miliardi di emendamenti? Perché no, erano milioni. Poi dopo è arrivato un computer, ha fatto tipo big data al contrario, cioè li ha cancellati tutti. Ha fatto lo smoldato. Sì, che poi era Calderoli, poverino. Vabbè, comunque, non fate gli emendamenti col computer, sennò un altro computer li cancella, è ovvio. Fateli con le persone, così le persone li devono leggere. Comunque, a un certo punto il Movimento 5 Stelle si è arrabbiato con Grasso e quindi gli ha dato di... Allora, a un certo punto, aspetta che lo leggo per bene. Leggi. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Gianluca Castaldi, cittadino, sì, non diciamo altro, ha giustificato nell'aula del Senato la decisione di tutte le opposizioni di astenersi dal dibattito sull'articolo 10 della riforma costituzionale per protesta contro l'atteggiamento della maggioranza. Passiva, non si capisce però, la resistenza passiva è, aiuta, ma comunque. Però come a chi è stato paragonato? Grasso, il Presidente del Senato. Sentiamolo, guardiamolo alla radio, è un ricordo di un recente passato. Stiamo giocando una partita, pur essendo, come le dicevo stamattina, tutte le forze di opposizione, maggioranza, ma pesantemente maggioranza nel Paese, una partita dove un'unica squadra gioca con dei giocatori in più, e ha visto anche di quale genere sono, e con l'arbitro Moreno. Quindi noi parteciperemo ai lavori. Guardi, questo accostamento non glielo consento, visto però... che accanto a un esperto anche arbitro, sa bene che cosa significa questo accostamento, quindi non glielo consento. Capito, grande, un esperto Grasso. Arbitro, però devo dire, l'arbitro Moreno, sono passati degli anni. No, vuol dire che Grasso segue il calcio, si ricorda, non glielo consento. Bravo, non glielo bravo, consento, grazie. Arbitro Moreno. Sei pronto, Daniele? Si sta riempiendo già la regia, lo vedi? Sì. Per noi, c'è già la colla. Sai che non credo. Vabbè, dai, allora, di una brevissima vuoto. Pausa. Sì, e poi c'è cambiamo d'arbitro un'altra volta. No, per no, no, sicuri. Dai, io sono già pronta. Facciamo spazio. Ci ritroviamo. Non saremo uomini soli. L'hai detto, ci troviamo tra pochissimo. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Radio Tube. Sono emozionata, cioè ma... ho tutta una cosa qua in gola, non riesco a parlare. Ma vogliamo dire che non abbiamo mai avuto tipo 20 persone in regia? Abbiamo cioè, un sacco di persone. Allora, abbiamo un sacco di persone in regia, abbiamo un sacco di persone in studio. Esatto. Sono... Sai che non c'è. Tutte le persone di un gruppo, no? Tutte. Allora, io li chiamo uno alla volta, faccio sì, l'appello. Fai l'appello tu. Io vedo metti ordine. Roby Facchinetti, presente? Presente. Dodi Battaglia, presente? Ecco qua, presente. Stefano Dorazio. Presente. Stefano Dorazio. Abbiamo un Rev Canzian. Presente. Ma io vedo entra anche un sempre Riccardo un attimo dopo. Fogli. Arrivato recentemente. Mamma mia, ragazzi. Beh, sono qui a Radio Tube, lo possiamo dire che suona pesante come cosa? Tutti pu a Radio Tube. Sono in diretta nel vento, che citazione, ragazzi. Sì, questa brava, è storia. Brava. Come facciamo a fare un'intervista a 5 persone? Pensavo tutti che pu. Mi chiedessi come facciamo a fare un'intervista seria, quella mai no, successo. Sì, esatto, per di più da emozionati, no, con 20 persone in regia. Io ho tutta un'ansia. No, allora, tu. Perché intanto loro hanno scritto sì. La canzone più bella della storia dedicata alla radio, in diretta nel vento. Ragazzi, io non so chi è d'accordo con me, è vero, eh? È vero. Dai, no, devo dire che Valerio ha avuto questa intuizione proprio parlo dell'80 78 a 78. Ah, per cui parliamo 78, veramente. 78 ed erano quel periodo lì nascevano le prime radio private, si capiva comunque che sarebbero diventate una cosa molto molto più importante, e in quel momento Valerio ebbe questa intuizione di parlare proprio della radio, di questo DJ che era innamorato di questa ragazza che lo chiamava la notte, mentre lui lavorava con le sigarette, con i mozziconi. Una fotografia perfetta. Capito, con quel puzzo di fumo. E quello era il DJ, non come voi, tutti asettici. Tutti camicia bianca, fumata. Bravi ragazzi. E non siete nelle prime radio libere. No, tra l'altro Valerio Negrini, che era detto il quinto Pooh, che adesso però potrei dire che lo possiamo definire il primo Pooh, perché lui è quello che comunque vi guida sempre. I Pooh non sarebbero esistiti, non saremmo qui noi, ed è quello che ha così dato voce alle nostre melodie. Diciamo che in questo momento di grande reunion non so che cosa daremmo ognuno di noi per averlo qui con noi, però insomma sarà sicuramente con noi, perché ormai è nel nostro cuore, nel cuore di tutte le persone che hanno amato la nostra musica. Riccardo Fogli, un ritorno pazzesco. Io c'ero la mattina della conferenza stampa. Quando è entrato Riccardo Fogli è stato un brivido per tutti. Voglio sapere se ve l'aspettavate voi e se l'aspettava Riccardo. Io so che c'era un freddo cane, io c'avevo brividi. E non avevo messo la maglia della salute che io porto sempre anche ora. Con i Pooh non si può portare la maglia della salute, si mangiano solo verdure. Io sono abituato a mangiare in Maremma delle bistecche di maiale, i fagioli e l'uccelletta e il pane. Con loro, quindi mi sono un po' indebolito e ho avuto dei brividi in fondo al cuore, quelli veri, quelli dell'emozione. Riccardo vere. È scemo perché non riesce a dire una cosa seria, e lui era il più emozionato di non tutti noi. Era il più emozionato di noi perché è una persona assolutamente fantastica, dolcissima e molto, molto, molto profondo. Per cui lui riesce a sbagliare una frase dopo che l'ha studiata per due giorni per l'emozione, e questo è però si vede, per questo esempio, oggi da Fazio, è un pregio. Da Fazio, Fazio cantava tutta la canzone Uomini Soli, che era la canzone dove lui non c'era. A questo mi riferisco. Ma lui conosce benissimo le parole dei brani che non canta, ma lui lo canta. In realtà lui si porta avanti per questi due concerti che noi andremo a fare appunto in giugno. Deve studiare. Lui dovrà essere pronto, per cui già adesso lui va in giro con i fogliettini di carta in mano. No, però lì sembrava molto sincero. Sembrava proprio una canzone. Ma assolutamente scherzando. È vero, sta mostrando alla radio. Interrogatemi sulla. Guarda. Allora, su quale? Guarda, ce l'ha tutti lì. Una. Mostriamo alla radio. Riccardo Fogli sta leggendo dei testi delle canzoni della fase in si cui può essere amici per sempre. Non mi lasciate solo. No, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. E adesso vai. Senza testo, sempre più difficile. Stefano Dorati prova e su una gamba. Comunque, che miscela di voci. Beh, si sente in modo incredibile. Ragazzi, poi io vorrei però tornare a quella cosa di Fazio. Sì. L'altra sera. Sì. Riccardo Fogli a un certo punto ha detto: ecco, sì, ha detto, voglio fare un annuncio. Anzi, sentiamolo, perché ce l'abbiamo quel frammento. Adesso lo devi dare l'annuncio. Però è magnifico, guardate come siamo in forma. Perché vi annuncio una cosa. Posso fare un annuncio? Voi siete stati anche precursori di tutto. Allora, eravamo tutti e cinque insieme in attesa che ci chiamassero, perché è tutto in diretta. Quando io sono con loro mi sento forte, simpatico e sicuro. A un certo punto mi hanno preso, mi hanno messo in un angolo, quelli della regia, hanno detto stai qua che escono loro. Allora mi è venuto il dubbio, ma è uno scherzo, io sono quinto punto. Siamo scherzi a parte. E ho cominciato a avere un'ansia nello stomaco, se ne sono andati, hanno cominciato a cantare, non restare chiuso qui. Allora mi sono detto, ma scusa, non ci dovevo essere, io dovevo rientrare, perché io c'ho tanti lavori alla Fammarema, c'è la taglia d'erba, la legna per l'inverno, sono qua, sono partiti. Quando hanno detto vai, io c'avevo l'ansia, avevo voglia di piangere, quindi devo decidere il momento di lasciarmi andare. Per questo poi quando Fazio ho detto scusi, dice sì, io devo fare pipì, c'avevo una voglia di fare pipì che me la facevo addosso. Questa è la dichiarazione. Ah, è clamoroso, benissimo. Clamoroso, una pipì in diretta non ha fatto nessuno. No, di stronzate ne ha fatte tanti in diretta. In televisione in generale. Quando ci chiedono, ma come è cambiato il vostro mestiere da quando avete iniziato a fare? Sì. Io ho fatto prostatico. Tutto il resto è rimasto uguale a prima. È una reunion per la chiusura, ma molto nella contemporaneità, perché la versione di Pensiero 2015 sembra, a parte che io prima di venire giù ho sentito Pierre, Un'altra canzone si stava ripassando. Sembra scritta e cantata ieri. Ma hai sentito la versione cantata anche con il volo? No, io sono andato all'originale, però comunque sembrava contemporanea. Pierre è la storia appunto attualissima di una difficile integrazione a scuola di un ragazzo omosessuale. Ed è, capita anche adesso, insomma, no? Noi, chi è che non ha avuto un compagno di scuola omosessuale? E c'è anche meno male, insomma. Ecco, non sono risolti tutti i problemi. Ma non è più difficile chiudere da contemporanei? Ma guarda, noi francamente abbiamo sempre avuto questa grande fortuna, no? Di aver cavalcato il nostro tempo in ogni momento. Il solo fatto di essere riusciti a fare in 40 anni 40 album inediti vuol dire che eravamo più il tempo che abbiamo passato insieme che non quello con le nostre famiglie, ma soprattutto rendendoci anche conto di come ci cambiava il mondo sotto il culo, come dicono i francesi, nel senso che ci siamo resi conto di aver sempre seguito non le mode, ma i fatti che succedevano intorno a noi. E devo dire che in questo Valerio è stato veramente straordinario, che è sempre riuscito a fare dei piccoli quadretti di quello che ci succedeva, magari non subito, perché tu hai citato Pierre. Considera che quello era il 1976, quell'album era pieno di citazioni su persone emarginate, no? C'erano dentro, certo, gitani, prostitute e quant'altro. E Pierre era un brano che non passò mai in Rai come altri di quell'album lì, perché era una roba che non si poteva neanche pensare a raccontare. Ecco, Valerio ha fatto questo e noi abbiamo avuto questa fortuna di andare sempre un passettino più avanti di quello che in qualche modo era la storia musicale che ci inseguiva, no? Come avete fatto negli anni a tenere insieme la dimensione artistica, la dimensione aziendale? Perché voi siete sempre stati una vera azienda. La stessa domanda che avevo in mente. Veramente, dobbiamo smettere perché di frequentarci. Sono troppo solo 24 veramente. Ma si chiama empatia. Perché davvero voi avete costruito 50 anni di azienda. Di successo, peraltro. I gruppi sono disordinati, dormono tanto la mattina, non fanno quello che abbiamo fatto noi. Noi, quando scendevamo dal palco, noi avevamo delle responsabilità ben precise. Ci siamo suddivisi per meriti sul campo, non per scelte strategiche, ognuno per le sue caratteristiche, per quello che era più portato a fare, ci siamo divisi dei compiti. E ognuno di noi ha lavorato per l'azienda, pur non per se stesso. Ah, bello! Ma tipo c'era uno che era un po' più l'amministratore, certo, delegato, certo, uno, certo, che era un po', certo, più il direttore, certo, del personale. Ah, bello. Uno più, ma anche uno più pratico a fare la musica, uno più pratico a fare le registrazioni in studio, uno più pratico a fare la grafica e così via, no? Noi abbiamo messo insieme quattro teste, quattro forze che hanno dato dei risultati che non si potranno più ripetere, ma soprattutto non si potrà più ripetere che quattro persone decidono di rimanere 50 anni insieme. Questa è la cosa più bella del mondo. Riccardo Fogli, che voleva essere un po' adesso, più disordinato. Adesso, e adesso con lui è ancora più bello. Il Pooh, la passione. Si sente. questa è bellissima. Chiamiamo questa, tutti, ragazzi. Perché dobbiamo. No, dobbiamo fermarci solo un attimo, perché abbiamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo subito dopo ancora con i Pooh. Radio Tube. Beh, ragazzi, che puntata, sono ancora qui? Sono ancora tutti qui. Allora, ci sono Chiocciola Di Bellasio, Chiocciola Marta Cagnola e Chiocciola I Pooh. Chiocciola I Pooh. Una curiosità che ho da quando ho visto nel video di Pensiero arrivare Riccardo. Visto che tu hai seguito la carriera dei Pooh, mi duole fare il conto dal 73 a oggi, perché è il mio anno di nascita, quindi non voglio fare i conti. Comunque. Ha dichiarato. Ho dichiarato 73. Tu dal 73 in poi hai seguito la carriera dei Pooh da fuori. E voglio sapere cosa hai provato di fronte ai successi. E non dico gli insuccessi, perché non ne hanno avuti. E sono curiosa di sapere i Pooh, esatto, quando hanno seguito la tua carriera da lontano, da il grande Sanremo dell'82, il successo pazzesco all'estero. Beh, un filo c'è sempre stato. C'è però, sempre stato il filo. Guarda, i primi anni sono stati molto duri, seriamente. Molto duri perché all'inizio, quando sono uscito, mi ero riproposto di non cantare nessuna canzone dei Pooh, tranne Piccola Katy, per riuscire, cercare di riuscire a fare a meno di loro. Non erano proprio nei miei pensieri migliori, ma poi la prima volta che ci siamo visti in CGD ci siamo abbracciati con così tanto affetto che mi sono liberato di quel piccolo non amore, perché non era odio, neanche rancore, era il non amore. Facevo finta di non essere un loro amico, come fanno i bambini. Da quel momento in poi, da lì è cambiata la mia vita, perché ho cominciato a cantare Non Due nel Mondo nell'Anima, Pensiero. È diventata più facile la vita, però sempre un grande amore. Io conosco tutte le loro più importanti canzoni. C'è solo un problema, che le canto con le parole mie. Mescolo, dammi solo un minuto, chi fermerà la musica, capito? Ora sarà un bel casino. E noi invece, ma sì, ma certo che l'abbiamo sempre seguito, ogni tanto, come diceva appunto Riccardo, ci si incontrava, c'è sempre stato comunque questo filo. Poi in modo particolare io, Riccardo, l'ho sempre considerato veramente un fratello, perché abbiamo diviso e condiviso non i panini ma il panino, abbiamo diviso, e che famo, stessa andiamo al cinema, però tu quanto c'hai? Io ho 60 lire, io ne ho 80, ma non ce la facciamo, vabbè, rimaniamo in camera a giocare a battaglia navale. Ecco, questo era. E io ho sempre seguito la vita professionale di Riccardo. Quando vinse Sanremo, in modo particolare, ero veramente forse più felice di lui. Ma praticamente infatti noi siamo l'unico gruppo che si riunisce senza essersi mai sciolto. Esatto. Infatti, perché il regalo agli italiani sta in quello, perché quando i grandi successi del Pooh, tutti pensavano: ah, c'era anche Riccardo Fogli, i grandi successi di Riccardo Fogli, ah, lui è uno dei Pooh. Una cosa, e quindi alla fine importante, noi stiamo facendo una reunion di un gruppo che non si è mai sciolto, non si è mai, per cui è un po', insomma, e lo dice lui che negli ultimi anni invece aveva deciso di, ma io Stefano sono Dorale. Sceso dal palcoscenico, ma non è mancato assolutamente il filo ombelicale, che in qualche maniera c'è sempre, perché come diceva Dodi, quando io avevo bisogno di musica per i musical, dove andavo? Qua, cioè la parrocchia è questa, per cui non riusciamo neanche forse ad avere una visione di tutto ciò che ci circonda musicalmente, artisticamente, che non passi attraverso noi. Io, se penso a una bella melodia, mi viene in mente Facchinetti; se penso a un bel arrangiamento, mi viene in mente Battaglia; se penso Fogli, non te penso mai, perché mi ha guardato implorante. A me che penso? No, se che penso, mi pensi? Se, mi chiedevo se in penso a una bella voce, mi viene in mente la sua, eccolo qua. E se a un certo punto c'è bisogno di creare un'organizzazione di tutte queste cose, con Canzian siamo perfetti. Abbiamo ricostruito l'organizzazione. Abbiamo la... Ma dopo che succede? Dopo questa cosa, Marta? Allora, dopo questa cosa ci sono per ora due concerti, 10-15 giugno, San Siro Olimpico. Mi raccomando, fatemi sapere presto se con Salzano organizzate altre date, perché io le devo seguire tutte. Allora, quindi noi vorremmo chiarire, perché stanno arrivando, ecco, perché l'avete nostri, un po' accennato sui nostri tempo Facebook, che fa. Stanno arrivando dei messaggi pieni d'amore, alcuni un po' amareggiati, alcuni disperati, alcuni anche un po' incazzati. Quelli mi dispiace, perché noi siamo sempre state delle persone estremamente serie, abbiamo sempre promesso quello che potevamo promettere. Quindi noi abbiamo annunciato che ci saranno due concerti, che ci sarà questo Picture Disc il 28 di gennaio, data in cui i Pooh ufficialmente sono formati 50 anni fa. E ci siamo fermati lì, ma questo non significa che in 15 mesi faremo solo questo. Però, voglio dire, non vi abbiamo mai fregato in 50 anni. Abbiate fiducia in noi e vedrete che saranno 15 mesi da vivere e condividere in maniera straordinaria. No, infatti si vede già. Avete parlato del Picture Disc. A parte il fatto che vi do una notazione autobiografica, mi è venuto un brividino al cuore. Perché i primi Picture Disc ve li stampava il mio papà, che però adesso è in pensione, quindi non ve li potrà stampare. Salutiamo Giorgio. Sì, salutiamo mio papà a casa, che vi ha sempre stampato quindi tutti i primi tu li Picture. Hai tutti? Certo che ce li ho tutti. I bagni galvanici. Però questo Picture Disc avrà una caratteristica: saranno i vostri fan a scegliere le canzoni. E io vorrei chiedere a ognuno di voi quale canzone sceglierebbe? Robin. Ma io l'ho già detto, l'abbiamo detto più o meno tutti e lo ridico anche ora, un brano, perché parliamo di chicche, parliamo di brani quasi sconosciuti al grande pubblico, questo brano dal titolo In altre parole, che non è mai apparso negli album perché non ci stava per ragioni di tempo, e è solo apparso nei CD, nei primissimi CD, e poi anche uno strumentale, perché è un'altra sfaccettatura nostra importante, che è dal titolo Concerto per un'oasi, che fra l'altro Red e sua moglie Bea sono particolarmente affezionate a questa, perché ha fatto un po' da colonna sonora alla partenza del nostro amore. Alla partenza, visto che è partito ed è finito bene, per cui anche un senso di gratitudine. Ok. Allora, un senso appunto di gratitudine nei confronti della persona di cui parlavamo prima, che si chiama Valerio Negrini, che tanto è stato importante per la nostra storia. Lui, quando uscì dal gruppo, si dedicò praticamente a fare tutto quello che non riesci a fare quando fai parte di un gruppo. Tu vai in giro per il mondo, fai concerti in Italia, all'estero, negli Stati Uniti, ma non vedi nulla perché sei impegnato a lavorare. E allora lui ha cominciato a girare il mondo, a fare dei reportage, l'ha fatti anche all'interno delle nostre canzoni, e ha fatto dei ritratti bellissimi. Uno ha parlato di Piazza Tiananmen, ha parlato di Orient Express, e ha parlato di una canzone che parla di una canzone di una città nella quale poi io e lui siamo stati personalmente, che si chiama Vienna, e credo che all'interno di questa raccolta non possa non esserci un brano per questa canzone, che anche se non è tanta voglia di lei, però è un quadretto molto interessante. Ma devo dire che se continuiamo così ognuno dice la sua, alla fine i fan non scelgono niente. Non è detto che siano d'accordo, ma magari non sono d'accordo. No, però specifichiamo, Stefano, perché sembriamo matti, che chiediamo a loro e poi decidiamo noi. Noi abbiamo già spulciato 500 mail che sono arrivate, e questi brani che noi ti stiamo dicendo in realtà stanno svettando nei primi 20, tutti quanti. Anche quello che sta per annunciare lui, che io so qual è. Io ho una canzone alla quale sono molto legato e che mi piacerebbe infilare dentro, che è appunto 50 primavere, che racconta la storia dei tuoi genitori. Esatto, ed è una cosa che non è andata prima ai parade, assolutamente non avrebbe avuto nessun tipo di caratteristica per essere radiofonico, come si dice, il pezzo da spingere o da pompare. Però questo e tanti altri hanno segnato veramente la parte interessante e forte della nostra storia. Non saremmo qui se non avessimo fatto quello. Saremmo finiti come tanti nostri colleghi con il primo Happy Parade, che ancora te lo ricordi a 116 anni, e per fare la festa di piazza e racconti ancora quello, no? Ma c'è un pezzo che Red Valerio scrisse dopo aver incontrato nella tournée del Cielo Blu sopra le nuvole, dopo aver incontrato Paola, che divenne poi sua moglie ed era molto più giovane di lui. Da questo matrimonio poi è nata Ginevra, che è una bambina meravigliosa, e lui scrisse questo pezzo su una mia musica che si chiama Fammi fermare il tempo, cioè fammi fermare questo tempo che passa, che corre, e in modo che io in qualche maniera possa essere raggiunto da te. È un omaggio alla grande poesia di Valerio. Io voglio sapere quella di Daniele e poi dico la mia prima di salutare. Ma l'ho detto prima, Pierre. Però certo, Uomini soli, per la mia storia personale, ha segnato parecchio. Però non è una chicca. Però non è una chicca, esatto. Infatti, alla ricerca di una cosa un po'. Anche la mia forse non è una chicca. La mia è Per te domani. Ah, beh, sì. Innamorarsi per politica, fregare la malinconia. Meglio di così. Ragazzi. Bellissimo. No, Riccardo non ha. Riccardo ne ha una. Quando io facevo parte di questo gruppo di Piombino, di metalmeccanici e gommisti, cantavamo una cover dei Them in inglese, in un macaronic inglese. Poi Valerio la prese tra le mani, ci mise un testo bellissimo, improbabile ma bellissimo. Nel buio. Si chiama Nel buio. E faceva? Nel buio della stanza so che pensi a me. Però prima c'era un assolo di basso, caro. Uno dei primi 19 assoli di basso della storia. Perché il 18 l'aveva fatto. Il bassista viene sempre fuori. Le famose mugate col basso. Sì, si chiama Nel buio. Una bella canzone. È una canzone che non ha il valore delle altre scritte da Valerio. Era una specie di traduzione. Però, beh, voglio dire, se me lo chiedete io dico queste. E fai bene. Stavo chiedendo. Io vi voglio salutare però con un sorriso, con un pezzo fondamentale di televisione di qualche anno fa. La classe operaia, che cazzo sta a fare? Antonio, la classe operaia sta a casa. casa a guardare la televisione che adesso è a colori. Gad Lerner, vabbè, Gad Lerner, pubblicità. Gad Lerner è uno, ma è un Carosello. No, Carosello non c'è più. Carosello non c'è più. Antonio, ci sono i Rolling Stones. No, i Rolling Stones sono separati. Ci sono ancora i Pooh! Ci sono ancora i Pooh! I Pooh! Ci sono i Pooh! Ci sono i Pooh! I Pooh! Sono passati 20 anni, ma ci sono ancora i Pooh e ci sono passati 50 da quando sono formati. Antonello Fassari. Ci sono ancora i Pooh! Ci sono e la Dandini. Fantastico. Dovevo chiamarlo sul palco a Roma a fare i Pooh! Ragazzi, tra l'altro devo dire che io Antonello lo vedo spessissimo perché fa parte insieme a me di un ente che si chiama Imaia e tutte le volte che lo vedo appunto lui dice tutte, è fisso, cioè, fisso lo vedo sempre lui. Ragazzi, che meraviglia, ci sono stati ci sono a Radio Tube, ridiciamo a Radio Tube i Pooh in persona. Io comincio a respirare adesso, ragazzi, grazie a voi, che grazie a voi, grazie a voi, a Siro e all'Olimpico. Per sì, ora 10 giugno San Siro, 15 giugno Olimpico, per 28 ora. Gennaio invece il Picture Disc con la storia. Avete studiato scelta. Tantissimo. Con la storia siamo parallela. Devo studiare musica. Per forza con lei, perché sennò sono bacchettate sulle dita. Dobbiamo grazie salutare. Ragazze per essere stati grazie con noi. Grazie a voi. Ciao. YouTube. Ragazzi, che come puntata. Passa però il tempo quando ci sono i Pooh, tutti e sei, tutti e cinque, no? Tutti. È stato veramente passa. Bello. Bellissimo, però noi adesso abbiamo deciso di chiudere tornando alla cronaca e alla cronaca di uno dei casi più inquietanti di scandali, di big data, di ruberie, di informazioni. Quando dice big data, sì, proprio lo so, purtroppo è una deformazione scolastica quasi. No, perché proprio nemmeno l'NSA, nemmeno Snowden. Allora, io vorrei farvi entrare. Cosa hanno subito. Rubato? Che dati hanno rubato stavolta? Sentiamo qua. Volete fotografarci come turisti? Svelarci come Agatha Christie? Ma nessuno ci ha mai visti? Credeteci, siamo spiriti maligni e satanici. Portiamo in basso gli indici per innalzare i calici. E quando si fa buio cantiamo tutti in cor. Tanti chitarri, tanti chitarri. Siamo le famiglie dell'Auditel. Tanti chitarri, tanti chitarri. Siamo noi. Siamo noi che custodiamo lo share, le famiglie Auditel. Le famiglie Auditel hanno rubato, sì, non si è capito bene. No, allora, c'è un Auditel Gate. Allora, cosa è successo? Che per errore, diciamo così, sono stati resi noti e dati che hanno svelato l'identità delle famiglie campione dell'Auditel. E noi ce lo chiedevamo qualche settimana fa, se qualcuno è una famiglia Auditel si faccia avanti e ci dica che noi vorremmo sentire la loro opinione. Che allora Auditel una nota ha risposto: non c'è stato nessun bacco nel sistema, ma un errore nell'invio della posta elettronica. Forse ancora peggio. Sì, a volte ci sono matrimoni finiti peggio per una mail sbagliata. Ah, certo. Comunque, il campione di 5600 famiglie sarebbe stato inquinato perlomeno perché qualcosa è andato storto. E allora, noi che già qualche settimana fa volevamo parlare con un cittadino Auditel, l'abbiamo trovato. Perché su Twitter, un ex cittadino Auditel è un cittadino Auditel emerito. Anche lui è merito. Molto emerito. Noi l'abbiamo detto, ma chissà se esistono o non esistono. Lui ci ha contattato su Twitter. E ce l'abbiamo al telefono. Massimo Falcioni, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Massimo. Allora, Massimo, tra l'altro, ciao. È un giornalista, un appassionato di televisione e anche proprio di costruzione dei palinsesti. Si è laureato. Ma guarda, avete qualcosa in comune, certo, una tesi di TV. Sulla televisione. Per gli strani casi della vita, lui ha fatto anche parte di una famiglia campione Auditel, è così Massimo? Esatto, nelle Marche, dal 2008 al 2010. Due anni. Gennaio 2008, gennaio 2010, sì. E come funziona? Raccontaci, cosa fa una famiglia Auditel? Una famiglia Auditel teoricamente, e nel nostro caso anche praticamente, fa quello che fa sempre, cioè guarda la televisione con la normalità che dovrebbe avere una famiglia campionata, poi diciamo magari non sempre ci si riesce, ma noi abbiamo provato. Quando abbiamo capito che non riuscivamo più a garantire la serietà, abbiamo mollato noi. Cioè si poteva un po' non comportarsi esattamente come richiesto? Diciamo che si era molto vincolati. L'Auditel in questo senso è stato anche molto, molto serio e molto corretto nei nostri confronti, perché quando si recepiva qualcosa che non andava nelle rilevazioni ci chiamavano a casa. Nel caso fossimo andati in vacanza e l'Auditel, il televisore non si accendeva per diverse settimane, loro chiamavano per sapere cosa succedeva. Preoccupati? Non preoccupati per la loro salute, no, preoccupati per i dati. Carino che l'Auditel si interessa di come tutto stai. Tutto bene a casa, esatto. La zia. Come mai? Magari era un periodo in cui la gente andava più a giocare a tennis, a fare altro, e l'Auditel chiamava. Guardate Massimo, ma voi avevate la scatoletta quella con perché mi ricordo che un tempo era stata resa nota questa cosa per cui... Se un membro della famiglia si sedeva, schiacciava il codice corrispondente, sì. Come funzionava? Quando si accendeva il televisore, sì. Diciamo si metteva in moto la macchinetta, ma la macchinetta segnalava la presenza, ma non la identificava, quindi quel valore era nullo. A quel punto la famiglia doveva comunque identificarsi, ogni componente aveva una lettera di riferimento, io ero la C perché ero il terzo a livello cronologico della famiglia, perché ero il terzo come anagrafe, no? E allora ero la lettera C e dovevo segnarmi ogni volta che accendevo il televisore o abbandonavo la visione di quel televisore. Quando non ci segnavamo, l'Auditel ci contattava. Poche volte è successo che non ci segnavamo, l'Auditel ci contattava, perché solo quando identifichi sia il familiare sia l'ospite che magari subentrava nei weekend, magari tu devi comunque spiegare all'Auditel chi era quella persona che stava guardando la televisione. Ma c'è un po' di Grande Fratello, però. Sì, no, devo dire che poi io sento grande serietà da parte di Massimo, anche perché poi effettivamente essendo appassionato la cosa, secondo me il meccanismo, secondo me ti era piaciuto conoscerlo. Ma scusa la domanda indiscreta, è comunque una sorta di lavoro. Cioè vieni in qualche modo ricompensato? C'era la possibilità, siccome non si viene pagati, ovviamente. Ed era comunque era una cortesia che la famiglia faceva, no? E quindi c'erano dei premi a fine collaborazione annuali o biennali nel caso in cui non si ritirasse il premio dopo il primo anno, c'erano possibilità annuali o biennali di ritirare degli oggetti, ma che avevano valore commerciale irrisorio, cioè non venivamo comprati. Questa è stata veramente una grande balla che purtroppo molte volte leggevo. Senti Massimo, ma uno si sentiva un po' influenzato, cioè uno diceva io quella cosa lì magari non la guardo perché sanno che sto per guardare magari dopo una certa ora la notte, oppure io non guardo quella trasmissione troppo pop, troppo... Non voglio sapere che dove è andata la... No, non ma voglio per sapere. Per dire, Massimo, tu eri un po' influenzato? A volte capitava, però poi funziona, cioè si fa sempre istinto, cioè quando ti trovi dentro a un meccanismo, dopo 10 giorni solo, cioè diventa normalità. Ah, ti dimentichi, come il Grande Fratello. Io ho continuato a fare la vita che facevo sempre, a livello proprio televisivo, di palinsesto televisivo, ho sempre guardato quello che guardavo prima. E poi vorrei segnalare che a livello statistico un comportamento anomalo è irrilevante, secondo me, cioè dovrebbero tutti quanti comportarsi in un certo modo contemporaneamente, capite? Certo. Quindi una persona che magari ha un atteggiamento anomalo in una certa ora su 5.000 famiglie certo, e 16.000 certo. persone diventa certo. secondo me irrilevante. Però anche voi non potevate conoscervi tra famiglie, giusto? No, assolutamente, no. Segretissimo. Io conoscevo anche il numero delle persone campionate nella mia regione, però mi fermavo al numero. Ma che cosa interessante, grazie Massimo. Io di questa esperienza. Molto piaciuto. Ma sì, anche perché hai comunque la sensazione di decidere qualcosa. No, ma poi come ci ha raccontato, è una cosa molto seria, si è capito dal racconto di Massimo che era una cosa che funziona. Bene, chissà se è ancora così, perché Massimo, ripetici in che anni tu sei stato membro di una famiglia Auditel? Gennaio 2008, gennaio 2010. Beh, non tantissimo tempo Uguale. Grazie Massimo grazie. Per essere stato con noi. Grazie del racconto. Massimo Falcioni, quindi giornalista appassionato di palinsesti e anche famiglia Auditel. Dentro la sua tesi di laurea, bene, bellissimo. Bene, sono molto contenta come è passato il tempo, oggi però che è passato una... del solito. Ma una puntata, sono molto contenta. Senti, alla prossima chi abbiamo in Rolling Stones? l'invito. chi è che vuole Filippo in regia? Non ho capito. No, adesso nessuno. glielo chiediamo intanto dopo ce lo facciamo dire. Ringraziamo Filippo in regia, ringraziamo Cristian anche Goldoni. Come solito in redazione, anche un po' il nostro badante. A sabato prossimo, Daniele. E buona domenica. A presto.